Nerdcast puntata 1-3. Wow wow wow, amici del podcasting, benvenuti a questa puntata, tredicesima puntata di Nerdcast dopo quanti mesi, non lo so, credo 3-4. Sentite gente in sottofondo il nostro Rampage. Io sono Murtag, lui è Rampage, se finisce di... ecco, introduciti. Ci siamo tutti, ci siamo, chiariamo. Il cinese, no, che invitiamo ogni puntata per fare questo intro molto, molto rock asiatico, si è stancato. Comunque, qua Murtag. Qua Rampage. Qui Garrian, come al solito. Ok, manca uno, che è Malloman, come avrete notato, che al momento è al mare, alla faccia l'abbiamo nostra. L'abbiamo cacciato al calcio in sedere, sostanzialmente. Più o meno sì. Quindi Malloman, se stai ascoltando questo, sappi che comunque... esatto, sì, più o meno questa è la risposta, sì, esatto. Ok, allora, prima di iniziare, visto che la puntata è anche bella lunga, diamo subito i contatti. Allora, blog, nerdpodcast.blogspot.com. L'email del podcast è nerdocast, @gmail.com. Abbiamo tutti e quattro un account Twitter. Il mio è Nerdfats, poi quello di Rampage Wish Freedom, quello di Garriden e Devisir92, quello di Malloman è Malloman. Però insomma non se lo merita lui, perché non è qui, quindi non aggiungetelo. Io direi di iniziare subito con le nostre Nerd News, visto che la puntata si prospetta anche abbastanza lunga. Che ne dite? Andiamo? Mi sembra il caso, via. Possiamo, okay, andare. Sigla. Nerd News. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, chi vuole iniziare, ragazzi? Intanto io qua metto una musica di sottofondo. Posso iniziare io, se sì, vi va. Sì, mi faresti un piacere. Ok, ottimo. Prego. Allora, la prima Nerd News che vi porto è una cosa molto interessante. In effetti si parla di una caratteristica dei videogiochi che chi è abbastanza nerd avrà notato, insomma. Quante volte vi è capitato di trovarvi nel bel mezzo di una situazione zombie, post-apocalittica, di distruzione totale, a lottare contro dei mostri e vi trovate così nel nulla, nel deserto del Sahara, il logo della McDonald's dentro il vostro videogioco? O qualcosa del genere, insomma. Tante volte, capita sempre. Fatto sta, esatto. Fatto sta che è da circa nell'ultimo anno, ecco, negli USA sono stati spesi ben $1 miliardo per introdurre pubblicità all'interno dei videogiochi. Questa è una mossa che funziona per alcuni videogiochi, ma non in particolare per quelli in cui questa cosa viene più usata, forse, che sono, uno non se l'aspetterebbe, ma proprio gli FPS. Ebbene, è stato fatto uno studio da un'università asiatica, che adesso non ricordo qual è, che ha dimostrato che tale uso delle pubblicità negli FPS è controproducente. Infatti le persone tendono, durante le sessioni di gioco a questo tipo di giochi, a concentrarsi verso altri particolari, e fra l'altro a vedere in situazioni di pericolo tali loghi, riconoscendoli come qualcosa di negativo, e quindi non essendo veramente attratti da questi, e quindi senza che la funzione commerciale del loro posizionamento abbia qualche buon fine, insomma. Ed è stato da poco dimostrato, insomma. Infatti si sta tendendo a togliere dagli FPS le pubblicità e metterle in altri tipi di giochi, soprattutto per colpire l'utenza femminile, che sembra essere quella più, ahimè, come dire, catturabile, impressionabile da questo tipo di pubblicità. Comunque, sulla riguardo alla pubblicità nei videogiochi, io personalmente non sono contrario, però diciamo inizio a diventare un po' più non lo so, un po' più diffidente quando vedo pubblicità che non c'entrano niente col gioco, cioè per esempio come negli screenshot che postiamo nel link, c'è praticamente uno Starbucks, c'è una striscia dello Starbucks Coffee, no? In Assassin's Creed, che praticamente non c'entra niente. Poi non lo so, magari a me sfugge la relazione tra Assassin's Creed e Starbucks. Forse, boh, magari nell'antichità c'era già Starbucks, magari mi sbaglio. Però in questi casi, appunto, mi dà abbastanza fastidio. Quando invece si tratta di una pubblicità che alla fine ci può anche stare nell'atmosfera del gioco, non mi dispiace alla fine. Per esempio la Nuka-Cola in Fallout. Sì, vabbè, ma quella... Sì. In effetti non so se la Coca-Cola l'abbia mai pagati quelli di Bethesda. Comunque, era l'università dell'Austin in Texas. Ah, non era cinese. Sì, no, i cinesi hanno altre cose da fare, dai. Sì, come aprire negozi Apple abusivi, soprattutto. Ma di questo ne all'entrata parla... dei negozi Apple veri. Abbiamo perso anche tutto il target di cinesi che ascoltano. Ah, è vero, ciao cinesi. Okay. No, dobbiamo dire una cosa importantissima, dobbiamo salutare la Spagna. Ah, sì, ok. Abbiamo tantissimi fan sulla pagina di Facebook che mi sono dimenticato. Soltanto fan. Soltanto brasiliani e spagnoli. E noi, cari amici della penisola iberica, vi vogliamo tanto bene. Grazie, continuate a seguirci, a scaricarci, sempre che capiate qualcosa, anche se non capite niente, continuate, va benissimo. E continuiamo a intrattenervi. Sì, allora continuiamo. Garriden, vado io o vai tu? Prego, fai tu. Allora, la mia è molto semplice. Allora, non poteva mancare una news contro Apple. Allora, anche se dopo parleremo approfonditamente del CEO, ex CEO di Apple, Steve Jobs, ma ne parliamo dopo. Apple, allora, in pratica sapete che il Galaxy Tab della Samsung è stato messo sul mercato proprio per essere il diretto competitor dell'iPad. Il problema è che in Germania il Galaxy Tab della Samsung è stato bannato, nel senso non lo troverete in Germania, lo troverete in altre parti d'Europa, del mondo, ma in Germania no, per il semplice fatto che l'Apple in un certo senso si è affidata alla legge per diciamo far decretare alla corte tedesca una sorta di scopiazzamento del design del Galaxy Tab rispetto all'iPad. Cioè Apple, in altri termini, pensa, sostiene che il Galaxy Tab sia stato copiato, cioè abbia copiato il design dell'iPad. E il bello è che non sostiene che abbia copiato, per esempio, delle caratteristiche intrinseche magari di hardware, ma proprio il design. È la cosa, diciamo, bella, tra virgolette, è che la corte tedesca ha creduto ad Apple e che ha bannato il Galaxy Tab dalla Germania. Ed è... io la trovo abbastanza pazzesca come cosa, perché non... cioè, il design dei tablet è quello, che cosa deve essere copiato, non capisco sinceramente, queste cose mi lasciano... semplicemente perplesso e mi portano sempre più a pensare che ormai la politica di Apple si basi soprattutto sulla sconfitta del competitor mediante il design a sto punto, perché se bisogna andare a dire che è il design quello che è simile rispetto agli altri tablet sul mercato, non lo so, secondo me siamo arrivati ad un punto un po' troppo, come dire, è un po' troppo avanzato di questa faida. Secondo me Apple benvenuto adesso... in capitalismo, Tavarish. Esattamente, secondo me ci è una cosa, cioè c'entra sicuramente il capitalismo, nel senso che ormai Apple secondo me si è data completamente alla ricchezza e basta, cioè non pensa più a nient'altro se non ai soldi. Questo è quello che penso io, poi insomma sarò cattivo e tutto quanto, però questo è, va bene. Rivoluzione, necessitiamo rivoluzione. Sì, vabbè, guarda, tanto i russi non ci ascoltano più dalla 11ª puntata, quindi giusto, puoi andare quando abbiamo demolito Piazza Rossa. Puoi andare molto tranquillo con le tue citazioni. Allora, Garriden, è arrivato il mio turno. Comunque, chiudo una piccola parentesi nel dire che, prima cosa, salutiamo tutti quanti i nostri fan Apple, che non ci sono più, però li salutiamo e diciamo che innanzitutto... Comunque i prodotti Apple hanno una certa rispettabilità. Magari sono, ogni tanto andiamo a criticare qualche feature, qualche scelta politica, non è che non siano bei prodotti, ci sono delle cose da mettere a punto, magari un fanboy Apple non le vuole vedere, ma ci sono. Giusto una sì, piccola... ma non è che siamo contro Apple perché ci pagano per esserlo. Cioè, chiaramente lo saremmo pure se ci pagassero, anzi. Però no, non ci pagano. Giusto... note che facciamo sulla nostra attività con Apple. La nostra attività? Con Apple, insomma, tutti quanti gli Apple che abbiamo avuto in mano e diciamo quello che ci è sembrato e soprattutto quello che leggiamo sulla Apple ci lascia un po'... Sì, no, noi cerchiamo di essere obiettivi, poi certamente dopo 2, 3, 4 volte che andiamo contro Apple uno inizia non anche siamo a... più obiettivi. Sì, beh, ma è naturale, nel senso, dopo un po' capisci che ormai non è più l'azienda che pensi sia, capito? Questa è rivoluzione, ragazzo! Mio Dio. Continua. Andando a proposito di rivoluzioni, parto con la mia news. Non vi nascondo che in futuro ci sarà probabilmente un argomento centrale, tutto quanto su una news simile, o almeno se ne è parlato. È molto probabilmente forse anche una rubrica, ma poi si vedrà, insomma, vi lascio solo questi spunti. Quello che vado a portare oggi è un articolo che è stato pubblicato il 4 agosto su un sito che si chiama TuxRadar, logicamente è un sito per appassionati Linux, come avete capito dal nome, e si intitola The Best Linux Distro for 2011, insomma. In pratica, sostanzialmente che cos'è? Si tratta della scelta, secondo TuxRadar.com, della migliore distribuzione Linux del 2011, ma parlandoci chiaro, in linea di massima di quella generale, ok? Sono state prese una marea di distribuzioni Linux, le hanno messe a tavolino e hanno provato vari aspetti, ve ne dico giusto un paio. Prima facilità di installazione, supporto hardware, ma anche bellezza del desktop e tutto quanto il resto, insomma, anche... diciamo personalizzazioni possibili con questa distribuzione, insomma tanti elementi effettivamente da tenere in considerazione in una distribuzione Linux, e il risultato ha lasciato attoniti parecchi beh non lo so, blogger direi più che utenti, blogger che siamo riusciti a leggere, che hanno visto Debian al primo posto. Debian che logicamente non è user friendly e non è forse la più utilizzata dall'utente medio, ma senza dubbio una delle più vecchie distribuzioni Linux sul mercato. Secondo posto per Ubuntu, ma era più che atteso, se non era il primo era certamente il secondo, e un terzo posto per Fedora. Io non posso fare altro che lasciarvi il link nelle pagine di Nerdcast e dire leggete con calma tutto quanto l'articolo. I miei pareri al riguardo sono tanti. In generale Debian è senza dubbio una distribuzione eccellente, forse effettivamente è la migliore, anche Ubuntu è buona, Fedora lo è altrettanto. Ci sono alcuni punti di questo discorso che non mi tornano, ad esempio come personalizzazioni è stato votato terzo OpenSUSE, senza dubbio una bella distribuzione, ma non mi torna onestamente come terzo posto. Che dire, c'è tanto da dire sulle distribuzioni Linux, ci torneremo senza dubbio. Sì, Fedora certo. Terzo posto è un posto meritato, Ubuntu poteva essere a mio parere, anche a mio parere, un primo posto, oltre che a parere di molte persone. Beh sì, chiaramente Ubuntu è più accessibile degli altri, poi si trova anche più facilmente, però forse. Comunque, come dicevi tu, è un discorso molto lungo e sicuramente interessante. Il problema è che dovremmo dedicare praticamente una puntata intera, non solo un Nerd Talk, però proprio una puntata intera a tutto questo, cioè a tutte le piattaforme Linux, le varie differenze, i vantaggi. Magari lo faremo nel futuro in forma più ridotta, però io dico sì, chi è interessato vada a vedere questo link, perché è questa pagina, perché è interessantissima secondo me. Bene, Rampage. Ok, siccome noi ci siamo lasciati poco prima delle tre, mi sarebbe piaciuto fare le lodi di una casa che aveva perso molti punti negli ultimi tempi e che invece adesso, sto parlando di Nintendo, mi cade un'altra volta dalle braccia. Molti di voi avranno visto, immagino, le tre, la presentazione delle varie news, ecco, della Nintendo. Ebbene, tutti ricorderanno della promessa di Wii U, ovvero di quel controller per la Wii che consente di giocare sia in forma portatile che alla Wii, praticamente, poi un po' di altre caratteristiche che era stato presentato durante le tre. Ora, si dà il caso che tale console sia stata architettata, secondo alcuni rumors provenienti probabilmente all'interno di Nintendo, troppo precipitosamente, e ciò ha fatto sì che il suo hardware non sia stato costruito in maniera abbastanza potente. Infatti stiamo parlando di ora non riesco a trovare le specifiche. Comunque la console dovrebbe avere, secondo alcune indiscrezioni, una GPU DirectX 10 10.1 di AMD e una CPU multicore IBM, che a quanto pare non bastano a reggere la pesantezza dei giochi che si vanno a giocare, detto in termini molto spiccioli. E poi, fra l'altro, pare che anche il wireless abbia alcuni problemi, e infatti al momento i progettisti hanno inserito un cavetto che, nonostante la sua presenza, comunque diciamo che le performance di gioco non sembrano essere delle migliori. Quindi, che dire, rimaniamo ancora delusi da una delle news che sembrava una delle più interessanti, forse, di Nintendo. Voi che dite? Guarda, io devo dire la verità, appena ho visto Wii U per la prima volta non ho capito a che cosa servisse in realtà. Per come l'avevano presentato, devo dire la verità, ero rimasto un po' perplesso, ma semplicemente perché secondo me non sapevano neanche loro bene come sfruttarlo. Hanno preso questa sorta di console staccata dal Wii, che secondo me è un'ottima mossa. Cambiare console per Nintendo secondo me sarebbe stata una cattiva mossa. Per me è un'ottima mossa continuare con Wii, però non si capisce bene che cosa concretamente di nuovo può portare Wii U e quanto comodo è. Secondo me bisogna dare semplicemente un po' più di tempo, perché... Certo, certamente bisogna dare un po' più di tempo, però l'idea di base non è male. A me non è parsa malvagia quando l'ho vista, nel senso, il fatto di avere un modo per continuare la stessa partita che so che tu stai continuando alla Wii sul pullman perché magari devi uscire, oppure se qualcuno deve attaccare la televisione non devi lasciare con dispiacere il tuo gioco. Cioè, capisci, non è male. No, no, ma infatti non dico che è male. Io sto dicendo proprio in termini di cosa può aggiungere al gioco, perché viene venduto. Io adesso non mi ricordo il prezzo di lancio, non mi ricordo neanche se ce n'è uno. No, non c'è ancora un prezzo più di o meno lancio ufficiale. Allora, io vorrò vedere, cioè sono curioso di vedere il prezzo di lancio, perché da lì più o meno si capisce che cosa davvero è. Perché se sfora per esempio i 200 o vai i 190 eccetera, vuol dire che Nintendo la intende come una console vera e propria. Se invece secondo me il prezzo giusto, che dovrebbe essere un 100, 110, 120, vuol dire che in effetti Nintendo non la prende come una vera e propria console, ma più come una periferica. Il fatto è che alle 3 me l'hanno mostrata come una console, non me l'hanno mostrata come una periferica. Oppure anche come una periferica, però più per cioè più una sorta di console che serve a migliorare le prestazioni di un'altra. Io ripeto, tenere il Wii è stato giusto da parte di Nintendo. Però non lo so, io adesso non mi voglio sbilanciare su Wii U. Dico soltanto che sto a vedere, vediamo dove arrivano. Semplicemente. Ma sì. Va bene. Garriden non tratta Nintendo, quindi lascia stare. Sì, no, sono sia contro la Wii U che come? Contro questa roba. No? Sei contro questa roba? Assolutamente. Cosa c'è? No, dico, la Wii U non mi sembra un progetto interessante. Ah, ok. È la liquida così. Un progetto interessante. Se devo dire. Ma lo sai perché? Perché Wii U non monta Debian, questo è il problema. Sì, questo è il problema, non monta Debian. Tutta, non uscirà mai alla cifra che hai proposto, è sicuro. Cioè, monta delle. Anche se loro dicono il nostro hardware non è adatto, per l'hardware che monta non te lo forniranno mai a un prezzo così competitivo. Quindi avrà i prezzi di una console. Io sono pronto a scommetterci. Io ci scommetto anche su questo. Hai scoraggiato quei due o tre nintendari che rimanevano, guarda. Sì, sono un po' un bastardo. Ma no, dai, se uno è un nintendaro non si aspetta prezzi competitivi. Ecco nintendari, ciao. Ciao. Addio nintendari. Perdiamo anche voi nintendari, è stato bello avervi. Ok, continuo con la mia seconda news. Dunque, conoscete OnLive? Sapete che sì. Cos'è? Bene, spiegamolo molto velocemente. OnLive è una sorta di piattaforma di gioco virtuale, cioè non necessita di un hardware, dunque per esempio di una console, per far partire i giochi sul vostro televisore o credo anche con computer, ma soprattutto sul televisore. Ovviamente la cosa è super rivoluzionaria perché chiaramente giocare a per esempio Halo su un proprio televisore senza l'Xbox è chiaramente una cosa futuristica, rivoluzionaria. Molti erano scettici sul progetto, anche io. OnLive da poco tempo si sta aprendo sempre di più. Chiaramente anche adesso ha dei problemi, però diciamo che in linea di massima riesce a fare quello che si propone di fare. Perché vi sto parlando di OnLive? Non soltanto per appunto spiegarvi di cosa si tratta, ma anche per ritornare sul discorso Ubuntu, dunque Linux. Come magari alcuni di voi sapranno, installare, comunque far girare dei giochi che molto facilmente girerebbero su sistemi, su qualsiasi sistema operativo Microsoft, è abbastanza arduo su Ubuntu o su sistemi Linux per varie ragioni che magari poi, se vuole, Garriden vi spiegherà. Io non sono molto che onore, vabbè. In pratica questo OnLive permetterebbe di giocare ai giochi che in teoria sarebbero difficili o forse impossibili da giocare su piattaforme Linux, appunto su sistemi operativi Linux. Dunque giocare per esempio a primo che mi viene in mente a un GTA 4 su Linux, se sembrava un'impresa impossibile, con OnLive, grazie chiaramente a delle patch, grazie agli hacker, si potrà giocare appunto grazie ad OnLive. E la cosa, a me, non so a voi, ma a me sembra abbastanza rivoluzionaria, nel senso, io ad OnLive non è una cosa molto bella. È pazzesco, perché significa, vabbè, chiaramente OnLive è un discorso a pagamento, adesso io non ne so tantissimo, quindi non posso dirlo con sicurezza, però se un domani dovesse essere piratato anche OnLive, sarebbe praticamente la fine di ogni console, in pratica, tranne quelle portatili, sarebbe la fine di ogni console. Non lo so, Garriden, vuoi spiegare magari velocissimamente perché è importante, cioè perché è difficile giocare su Linux, oppure... La lancio in termini molto spiccioli. Sì. Il problema, parlandoci chiaro, adesso l'hardware Linux, cioè il software Linux sfrutta hardware davvero che prima non si poteva immaginare. In teoria sfrutta anche accelerazioni video, tutto quanto ciò che servirebbe per far girare un gioco. Il problema di fondo è che suppongo sia il problema centrale, ce ne sono tanti, parliamo di questo. Diciamo che le librerie che vengono utilizzate per i videogiochi, parlo di DirectX e simili, di certo non le vedremo mai su Linux, su sistemi operativi simili. Scusami, Rampage, che cosa sta crollando casa tua? Sì, più o meno, ma non vi preoccupate. Vabbè, continua, Gary. Molto bene. Niente, insomma, dico, queste librerie non le vedremo mai su Linux, quindi si cercano altre vie. Non è un problema di supporto hardware, è un problema vero e proprio di librerie e di compatibilità con Linux. Sì, sì, conseguenza... no, non è l'hardware. Sì, sì, non è l'hardware, è che Linux è, tra virgolette, seccante per il casual, diciamo. Per me. Per te cosa? Per me è seccante. Ok, sì. Grazie della... No, guarda, ci sono anche lotte interne al podcast qui. No, non mi lascio, dico soltanto che non è che sono, non è seccante Linux, secondo me. È seccante la gente che non dà il proprio software open. Caspita, qui ho fatto davvero il comunista. No, non dico questo. Dico che se tutti fossero open, allora Linux sarebbe ok. Allora il problema non è molto Linux. Non è esattamente Linux, ma siamo d'accordo su questo, siamo d'accordo. Il problema è che cazzo non gira neanche un gioco. Cioè. Dipende. Se prendi ad esempio, e ne parlerò anche successivamente, i giochi Abandonware e i giochi che trattiamo nella sezione retro games, effettivamente li puoi giocare. Ok, quelli sì, però se io voglio fare una LAN a un FPS non è così semplice con i miei amici, per esempio. Quando i creatori di quell'FPS non decidono di mettere Linux tra le loro scelte e quindi di utilizzare tutto ciò che si può utilizzare su Linux. Scusami, Rampage, per favore, ammazzati dopo il podcast, ti puoi ammazzare, però adesso, perché se perdonami, non... perdonami, no, è un cassetto che è caduto, non ti preoccupare. Ok, continua. Aspida. Comunque, insomma, in parole povere, è una bella cosa questa di un live. L'unica cosa che logicamente... Anzi no, è anche un lato positivo. I sistemi che utilizzeranno online non saranno Linux. Questa è una cosa un po' positiva e un po' no. Diciamo che l'utente che si vuole illudere di utilizzare l'open source lo utilizza. Ma a questo punto, se volessimo veramente essere open, non apriremmo nemmeno Facebook, perché potremmo dire magari non è ostato su un sistema open. Sì, sì, sicuramente qua entriamo in discorsi più filosofici pure. Tra ci sono filosofico e l'idealista, insomma, stile fondamentalista cristiano. Sì, insomma, no, sì. Ma oh, per favore, madò. Allora, comunque ci ritorneremo, perché l'argomento secondo me è molto interessante e merita di una discussione più approfondita. Dunque, Gary, stavo notando che porto solo argomenti da discutere approfonditamente. Mi vorranno uccidere. No, non ti preoccupare. Ma noi ti accettiamo per quello che sei. Ah, caspita, pensa tu proprio a lui. Vai, sei tu con la Nerd News. Allora, tocca a me. Vediamo un po'. La Nerd News, la dico in breve, riguarda la nostra amata compagnia Nvidia, come la volete chiamare voi, insomma. Esatto, quella è l'idea. Bene, questa volta però non è una notizia per veri gamer, o meglio, non piacerà secondo me ai veri gamer, ed è che il CEO della Nvidia, quindi l'amministratore delegato della Nvidia, ha appena rilasciato detto che non intende, cioè la Nvidia non intende lanciarsi tanto nel mercato desktop nei prossimi anni, quanto più in quello mobile. Parliamo di tablet, di piccole periferiche, i vostri smartphone, quella roba lì che già adesso montano in gran parte periferiche Nvidia. Parliamo della tecnologia Tegra, credo si chiami così, insomma, la tecnologia che montano queste piccole periferiche, sempre sviluppate da Nvidia. E quindi Nvidia crede sia importante investire in questo campo. Addirittura è stato detto, se non ci si è intenzionati a lanciare una tecnologia nell'ambito mobile, allora si è indietro di 7 anni. È senza dubbio una frase esagerata, ma sì, importante. Allora, secondo me il discorso parte dalle schede video Nvidia. Noi parlavamo qualche tempo fa, se ti ricordi, del fatto che per molto tempo Nvidia facesse le schede video migliori, diciamo, vero? Sì, a un certo punto, diciamo che il mercato di schede video è sempre stato Nvidia ATI, più o meno, sì. AMD, insomma. ad un certo punto, io adesso il mercato delle schede video non lo seguo tantissimo, però ad un certo punto, almeno passando a quanto dici tu, AMD sorpassa Nvidia per quanto riguarda, diciamo, la qualità. Sì, parliamo anche di parecchio tempo fa, poi ci sono stati alti e bassi, Nvidia si è ripresa, a volte sì, a volte no. Insomma, in sostanza adesso Nvidia non ha a parità di prezzo un competitore per AMD, parlando di prezzi più alti forse. Chiaramente investire. Madonna, chi è che questo casino, ragazzi? Rampage, ti devo mutare? Rampage, sei tra noi, Rampage. Io ho perso, c'ho un problema. Vai avanti. Sì, basta che non fai casino. Allora, no, stavo dicendo che in effetti è una cosa abbastanza strana questa di Nvidia, cioè andare a dire che chi non investe nel mercato mobile, qua c'è scritto Deep Third, che sarebbe un po' traducibile con, non lo so, idiota, grande sì, idiota, qualcosa di simile. È abbastanza enigmatico, perché insomma Nvidia che dice una cosa del genere, il CEO di Nvidia che dice una cosa del genere, è abbastanza enigmatico e anche preoccupante. Ma a me non è chiaro, ma Nvidia smette di fare schede grafiche e si dedica solo a questo? No, per niente. Dicono che ci saranno comunque delle alternative high-end per i giocatori. Tuttavia, Sarà lo scopo principale della compagnia come sviluppo, cioè non ci saranno tanti miglioramenti in campo desktop quanti ce ne saranno in campo mobile, ecco. È un peccato, secondo me, è un peccato. Sì, concordo, è un motivo in più per comprare AMD. Voglio dire, ma sarà cattivo. Perché? Cioè, posso capire che il mercato mobile sicuramente, senza ombra di dubbio, è una fetta, diciamo, importante. Però la dichiarazione qua mi sembra come se il CEO volesse dire: sì, noi qua vediamo il futuro nel mobile, non seccateci mo con i computer, noi qua stiamo lavorando al mobile. Sì, tuttavia non è che abbiano tutti i torti per certi versi. Io stavo notando, poi ne parleremo magari in un futuro, soprattutto in altre news, quando si vedranno dei veri frutti. Se notavate anche Google stava facendo dei progetti per avere giochi seri, parlo di serie del tipo, non so, con un motore grafico tridimensionale serio, con dei sistemi di controllo esterni e dei controller nei propri browser, su Google Chrome e simili. Sì, ma io dico no, ma i giochi, ok, fai un gioco con grafica super spaziale per, che ne so, un tablet, ok? Ma chi è che lo gioca? Cioè, in che situazione lo giochi? Io sono contro queste cose. Secondo me i giochi si giocano in fisso e non in pullman. Siamo tutti quanti contro, però devo dire che la fetta di gamer casual che si possono vedere in giro utilizzano spaventosamente gli smartphone. Davvero, ho visto gente diventare, che ne so, dei pro gamer di Fruit Ninja, ok? Ci siamo intesi. Sì, ma allora, ma il punto è che quelli li possiamo definire dei gamer? No, assolutamente. Cioè, no. Questo sta a voi. Però in generale mi fa pensare che il mercato dei smartphone, giochi per smartphone, parecchia gente lo sfrutti. Se Nvidia investe lì a livello di mercato, lasciamo stare la figura, a livello di mercato è una buona scelta, ahimè. Certo, a livello di mercato è una buona scelta, però le persone, il fatto che molte persone in questi anni abbiano iniziato a giocare con i loro smartphone non significa che questi siano dei convertiti che prima giocavano a casa. Cioè, chi stanno perdendo una fetta di, rischiano di perdere una fetta. No, secondo me invece non si perde, perché chi è i veri gamer continuano a giocare comunque nelle loro postazioni fisse. Quelli che giocano con il mobile sono delle persone che prima comunque non si impegnavano più di tanto. Sì, certo, conta che però magari un giorno Nvidia non offrirà il top gamma, e il top gamma sarà offerto magari da AMD, una compagnia presa a caso, e quindi magari si rischia, secondo me. Cioè, pensa un po', c'è un certo numero di developer alla Nvidia che poi viene utilizzato per fare altre cose, ad esempio mobile. È logico che a livello di ricerca scientifica, parlo, non andrà avanti in campo desktop. È molto difficile che vada avanti. Certo, e questa è la cosa che mi preoccupa, infatti, perché io sono un fan sfegatato delle schede Nvidia. Un fanboy Nvidia, che merda. Però se esce il cellulare dell'Nvidia me lo prendo. Il cellulare dell'Nvidia. Vabbè, sì, ma forse può darsi, non lo so. No, ma il cellulare a forma di occhio. Il mio Galaxy S mi piace, Android, viva Android. Allora, no, secondo me il problema, per chiuderla, è che i giochini per smartphone sono appunto dei giochini. Cioè, no, per, Angry Birds, d'accordo, Fruit Ninja, che alla fine sono semplici, hanno un gameplay semplice. Che, a che cosa servono? Sono nella metropolitana. Devo aspettare un quarto d'ora. Prendo lo smartphone e gioco. Adesso, metti che Nvidia mi fa un gioco per smartphone con una grafica super spaziale, d'accordo? Ma chiaramente, o me lo fai con un gameplay semplice, perché se non fai un gioco mobile per smartphone con un gameplay semplice, secondo me è inutile. Secondo me è inutile. Non ci ovvio che è inutile, perdi l'essenza stessa del mobile. Però, perché, cioè, Nvidia alla fine sta dicendo: investiamo su grafiche bellissime per i giochi su smartphone, però non si parla di che tipo di, cioè, che uso farà Nvidia di questa grafica, di questa super grafica, non si capisce. Speriamo si tratti non tanto di gaming quanto di altro, magari roba ad alta definizione e altre cose un po' più utili, va? Ma che cosa? Allora, con tutto il rispetto per gli smartphone, ma ci sono degli smartphone che anche adesso hanno una risoluzione che vedi pure cosa c'è dietro il telefono, volendo. E non lo so, cioè, andare a investire significa spendere dei soldi, chiaramente. Io l'utilità non l'ho mai capita di queste cose. Non lo so. Beh, guarda, in generale, che io sappia, tutte quante le GPU Tegra, quelle che stanno facendo, hanno di interessanti, veramente interessante al momento una cosa: ti rendono possibile vedere anche video con codec molto pesanti su uno smartphone. Certo, sì, ma a me questo sa soltanto di un'ansia sfegatata di futurismo più che di un... non lo so io come definire. Cioè, io non riesco a usare il cellulare così tanto. Nel senso, non vedrei mai un film sul cellulare. E non sei uno sporco americano. No, ma capisci che... cioè, sono delle cose che... non lo so, io non ci riesco. Nonostante io sia abbastanza nerd, comunque. No, ma... prima cosa di tutto, risolviamo il fatto che la batteria... le batterie degli smartphone... certo, fra l'altro, media, questo è un problema. In media fanno, tra virgolette, schifo. Perché se mi guardo un film... su, oddio, uno smartphone non è che facciano schifo, sono allucinanti. Il problema è che si chiede un po' troppo. No, infatti, cioè, sì, dovresti avere un telefono di 3 kg per farlo durare. Fanno schifo rispetto a quello che ti dicono tu ci puoi fare, praticamente. Sì, perché questo, se sì. Perché Apple, se ti mette davanti l'App Store e ti dice: ah, scarica questo, questo, questo, puoi fare quest'altro, puoi fare questo, tu le scarichi, avvii, che ne so, 2-3 app e vedi che la batteria, che ne so, 25%. Secondo me il problema degli smartphone vero e proprio è che non c'è una proporzione rispetto a quello che offrono, secondo me. Oppure questo uno se la deve creare la proporzione, che deve fare per forza, se no la batteria se ne va. Secondo me sugli smartphone bisogna lavorare più sulla composizione proprio intrinseca degli smartphone. E poi sì, lavorate sul resto, però fate degli smartphone resistenti. Io concordo con Murtag. Ok, sì, allora ragazzi, noi avremmo finito le nerd news. In realtà ce n'è una in comune abbastanza speciale. Allora, abbiamo messo di parlare di Steve Jobs. Allora, come molti di voi sapranno, Steve Jobs si è ritirato da CEO di Apple, lasciando al comando Tim Cook, chiaramente per problemi di salute. Noi l'avevamo già ipotizzato nelle scorse puntate. E non volevamo soltanto parlare della mera notizia, cioè Steve Jobs che se ne va, ma in un certo senso anche del funerale della personalità di quest'uomo. Non lo so, chi vuole iniziare? Io mi emoziono. Sinceramente mi sto emozionando. Secondo me dovrebbe iniziare quello che di noi è più vicino a Apple. Garriden, vuoi iniziare? Esatto. Come dite, scusa. Vuoi fare una preghiera? Allora, la mia preghiera. No, no, allora, prima cosa, il vostro è un attacco, cioè state portando le mie cattiverie avanti solo perché volete un po' di guerra. Va bene, guerra sia. Mi dispiace che Steve Jobs se ne vada come CEO dell'Apple, no, davvero? No, no, no, no, non ho detto che non mi dispiace, a me dispiace tantissimo. Soprattutto perché non vedrò più a quelle conferenze la maglietta nera, i jeans, i blue jeans e gli occhialetti che si porta da 15 anni ovunque. Cioè, soprattutto con questa musichetta di sottofondo. Sì, in effetti se avete notato è abbastanza funerea. Noi non vogliamo essere di cattivo spicio a Steve c'è Jobs. C'è da dire una cosa. Che sì. Steve Jobs aveva dei meriti, anzi ne ha avuti tanti meriti. Certo, certo, no, non lo sto dicendo lasciamo perdere che nell'ultimo periodo tutto ciò che non faceva lui era attribuito a lui, perché insomma magari c'erano dei grandi programmatori alla Apple, non certo lui portava avanti tutti quei progetti, magari neanche sapeva come funzionavano, infatti non lo sapeva. Al di là di questo ha avuto un passato storico. Sì, io ripeterei, è uno dei pirati di Silicon Valley, dei punti salienti della sua carriera, adesso davvero molto seriamente, perché chiaramente Steve Jobs per molti, adesso c'è un grandissimo dibattito, però per molti è stato il precursore di quello che oggi è Windows o comunque un computer moderno, quando invece molti altri dicono no, è stato Bill Gates ha fatto Windows, non ha fatto il computer, uno dei veri, cioè il primo a fare un vero e proprio computer che funzionasse in maniera discreta è stato Steve Jobs con l'Apple 2, se non sbaglio. Adesso non mi ricordo quanti Apple fece, mi pare 3. Sì, ma Apple II effettivamente era quello tosto. Dove figurarono anche i primi giochi. Cioè mi ricordo che anche LucasArts fece mi pare il primissimo gioco di avventura grafica su Apple II, se non sbaglio. Comunque secondo me è stato Steve Jobs a creare comunque un modello base per quelli che sono i computer moderni. E l'ha fatto in una maniera, cioè andando a leggere la biografia, adesso non stiamo qui a ricapitolare tutta la biografia e tutta la sua vita, perché chiaramente ci vorrebbe un podcast intero, però andando a vedere i suoi studi, anche lui grandissimo genio come Mark Zuckerberg, che non frequenta l'università e si mette subito a lavorare per Atari, inizia a collaborare da tutte le parti, fonda, e bisogna ricordarlo questo, anche se non c'entra molto con Apple, fonda Pixar è praticamente una, diciamo, delle case maggiori di cioè produttrici maggiori di film di animazione ancora oggi, la maggiore. Non saprei, c'è l'altra, non mi viene, famosissima, non mi viene. DreamWorks. Come? Roba da DreamWorks. DreamWorks, ecco, sì. DreamWorks. Beh, c'è una bella lotta tra i due. Fonda Pixar, fonda Apple. Insomma, per come la vedo io, fino almeno ai primi anni 2000, Steve Jobs è un assoluto profeta, tra virgolette, è un assoluto genio. Non che non lo sia anche adesso. Quello che accade, secondo me, di sbagliato nell'evoluzione, tra virgolette, del personaggio di Steve Jobs, avviene già poco prima dell'iPhone. A me il Macintosh non è mai stato simpatico, a dire la verità. Poi, vabbè, Garrigan si può sbirzarrire come vuole. Però non è stato... Cioè, è stato quando, soprattutto quando ho visto l'iPad, che ho capito che, cioè l'annuncio dell'iPad, che ho capito che ormai Steve Jobs ormai aveva dato quello che doveva dare e non poteva più andare avanti, cioè ormai con una cosa talmente inutile, e mi dispiace, ma è inutile, come l'iPad, no? Vuol dire che Steve Jobs semplicemente si è venduto, semplicemente non ha più niente da dare. Io ma che cosa ricordo. Dici, l'iPad è il miglior tablet del mondo? Sì. Questo era il nostro fanboy in studio. Ciao fanboy in studio. Ancora? Oh. Ah, un'altra cosa importante, scusatemi, di Steve Jobs, quando appunto CEO della Apple, la creazione di iTunes. Adesso iTunes può essere criticato quanto volete, però è stata una delle prime piattaforme a convincere in un certo senso molti musicisti, anche famosi, a vendere la propria musica digitalmente. Anche questa è stata comunque una sorta di svolta, è stato uno dei primi. C'è da dire che sicuramente è stato un grandissimo genio, forse il genio dei computer in questa in questo senso, nel senso dei computer moderni. Soltanto che non si può continuare a dire che qualsiasi cosa, ogni cosa che fa Steve Jobs è oro. Non lo è più da molto tempo, e bisogna dirlo. Per questo lo critichiamo, ma non perché crediamo che sia un idiota, ma semplicemente perché secondo me si è venduto al business, quello che fanno poi le grandissime multinazionali. Infatti Apple... perché aveva finito le idee. Beh, ma se finisci le idee, almeno cerca di arricchire quelle che hai. Cioè, cazzo, mi pare si sia svuotato abbastanza il cervello in tutte queste anni di carriera, no? Cioè, sì, per questo capisci quello che voglio ormai dire. Ma che dici, Steve Jobs non finisce mai le idee. Va bene, io con questa musica di questa musica di sottofondo, sinceramente sto vedendo l'allegria svanire. Non so voi, ma è perché stiamo parlando bene per la prima volta di qualcosa della Apple, quindi... Hai ragione, infatti, ecco, dai, che cazzo fa? Dovremmo andare avanti, secondo sono stato troppo serio, Apple merda, vaffa. Ok, basta. Sennò, basta sta canzone, basta. Basta, basta, basta, ok, perfetto. Allora, andiamo con la prima canzone PodSafe. Andiamo con la prima canzone PodSafe. Allora, due paroline sulla musica di Nerdcast. Allora, noi a Nerdcast prendiamo qualsiasi tipologia di musica perché ci piace, almeno mi piace. Quindi le canzoni che ho preso, le canzoni che abbiamo preso, anzi le ho prese tutte io per questo episodio, andiamo con un po' di elettronica 8-bit, molto interessante. Allora, il gruppo, credo sia un gruppo, si chiama Lukash. La canzone si chiama Stand Alone. Don't need no santo, Luke Hash con Stand Alone fanno una musica, ecco che parte la sigla, senza, fanno una musica molto interessante, 8 bit elettronica, come avete sentito. Sono sempre su jamendo.com. Come avete sentito, la sigla, la prossima sigla è quella di Nerd Talk. Non ho capito se il nostro Garriden è tornato o... Sono qui. Ah, ci sì, sì, ci siamo tutti. Ok, allora andiamo con la nostra truzzissima sigla di Nerd Talk e vediamo un po' di cosa parliamo. Nerd Talk. Bene, Nerd Talk. A me sembra di aver già fatto un Nerd Talk fino ad ora. Sono già stanchissimo. Forse è il caldo. Ok, Nerd Talk, il nostro super, la nostra super discussione. Questa volta vogliamo parlare di un argomento che volevamo proporre già allo scorso podcast, lo proponiamo adesso, ed è Facebook contro Google Plus. Dunque, la battaglia dei social network. Dunque, la discussione ha varie sfaccettature. Io inizierei con una domanda, cioè quanti di voi hanno Facebook e quanti di voi hanno Google Plus o di noi? Entrambi. Entrambi. Adesso, quale usate di più? Entrambi. Ahimè, Facebook. Allora, io uso Facebook. E davvero usi più pure Google Plus come Facebook? Sì, perché molti dei miei amici che si rifiutano di farsi un account Facebook hanno un account Google Plus. E quindi ho un pezzo di amici che non posso contattare su Facebook, con i quali, vabbè, che adesso da poco hanno anche Facebook, ma che comunque contattavo su Google Plus. Beh, comunque sei una delle poche persone che conosco che usa Facebook quanto Google Plus e viceversa. Comunque, Google Plus, un po' di storia. Google Plus nasce come progetto già un po' di tempo fa. Verso, correggetemi se sbaglio, verso maggio, giugno, inizia ad aprirsi solo agli inviti, però insomma ricevere inviti per Google Plus è stato facile più o meno per tutti, diciamo. Anch'io credevo di non poterne ricevere, invece fuori tempo ne ho ricevuti un paio. E allora... Chiaramente tutti e tre mi pare che abbiamo ricevuto inviti, vero, per Google Plus, quindi l'abbiamo usato praticamente prima del tempo in cui andasse free online per tutti quanti, come adesso. Beh, devo dire una cosa prima di dare delle statistiche. Chiaramente uno che esce da Facebook e si ritrova su Google Plus con una pagina praticamente deserta, con delle funzioni praticamente sconosciute, chiaramente ha lo stimolo di dire beh, basta, non potrà mai essere come Facebook. Ci ho sperato, invece secondo me non sarà mai come Facebook. Questo è stato secondo me un pensiero in generale da parte di molte persone, della maggior parte di persone, molto superficiale. Sì, beh, magari anche, diciamo che quando era sotto invito, Google Plus comunque non è il Google Plus di ora. Certo, i cambiamenti sono un po'... cioè, ci sono un po' di cambiamenti, però diciamo che alla fine Google Plus all'inizio non offriva... secondo me aveva delle feature che sarebbero carine da sfruttare. Però, non so, mi hanno sempre lasciato un po' perplesso, anche perché... Guarda, se posso esprimere la mia opinione al riguardo. Sì. Allora, Google Plus, intanto, perché uno dice Google Plus non potrò mai lasciare Facebook per questa cosa? Perché, oggettivamente, ci sei solo tu in quel momento, no? Essendo una cosa tanto nuova, ancora non c'è nessuno. Un po' come ai tempi di MSN si usava tutti quello, e poi quando è uscito Facebook non è che l'avevano proprio tutti, quindi è stata una cosa graduale. Adesso io trovo più difficile comunque che si passi da Facebook a Google Plus, perché sono molto simili. È il punto cruciale secondo me. Comunque andiamo con ordine, vediamo un attimo, sì, più o meno, cerchiamo di individuare più o meno i punti fondamentali che ha Google Plus rispetto, cioè in più magari, di Facebook o diversi. Allora, diciamo questo: Google Plus non ha vere e proprie amicizie, ci sono i circos, cioè le cerchie. Se avete in mente Twitter, più o meno potete capire bene di che cosa trattano le cerchie. Diciamo che su Google Plus si può sia aggiungere un amico, dunque seguirlo, come appunto magari aggiungere un amico su Facebook, però nello stesso tempo si può anche seguire, si possono anche seguire le azioni, diciamo, le varie azioni su Google Plus di un personaggio anche famoso. Per esempio, io seguo, nel senso follow, per usare una terminologia twitteriana, follow Sergey Brin, che è uno dei due creatori di Google. Chiaramente Sergey Brin non è che segue me o mi ha tra gli amici, io seguo lui e basta. Chiaramente posso mandargli una richiesta d'amicizia, ma è diverso. Posso fare entrambe le cose, posso sia, chiaramente se gli mando una richiesta d'amicizia lo seguo, ma posso anche non mandare una richiesta d'amicizia ma seguirlo, cioè vedere che cosa fa, chiaramente rispetto alla privacy che imposta lui. E quindi ci sono le cerchie, che secondo me sono già un punto a strafavore di Google. Soltanto che non lo so, Google le ha organizzate, l'interfaccia le ha organizzate un po' male. Sono d'accordo. Non lo so, guarda, è un'idea, secondo me è un'idea molto buona che fa Ma fronte, l'interfaccia è sbagliata. Fa fronte molto bene a due social network contemporaneamente, Facebook e Twitter. Però l'interfaccia mi lascia un po' perplesso, perché io sono stato un po' di tempo là su quell'interfaccia a capire se avevo aggiunto quell'amico oppure lo stavo seguendo, se quella che vedevo era una pagina oppure la pagina utente, se c'erano dei gruppi. Insomma, è un po' confusionaria. Secondo me Google doveva fare una sorta di tutorial. Beh, non c'era niente di male a fare. No, tutorial no. Perché, scusa? Perché è troppo poco immediato. Sì, va bene. Io non voglio dover leggere un tutorial per entrare in un social network. No, non te lo deve dare per forza il tutorial. Se tu sei curioso di capire come funziona quella funzione, te lo vai a vedere. Ma probabilmente ci sono, ci sono magari su YouTube, ci sono. Però, boh, magari anche nella prima fase Google Plus Google avrebbe potuto mettere qualcosa di più esplicativo. Comunque, la funzione dei circles, secondo me, è molto buona. C'è una cosa dei circle brutta. Cioè? Allora, non so se avete notato, se andate proprio nella pagina delle cerchie, mi pare, adesso verifico per essere più sicuro, le cerchie vi appaiono proprio sotto forma di cerchi, ok? Sì, certo. Quindi, allora, il punto qual è? Fino a quando su Google Plus ci sono 20 persone, io in questo cerchio le posso riconoscere. Ma qualora avessi lo stesso numero di amici che ho su Facebook, questo cerchio è improponibile come interfaccia. Sì, questo è vero. Non l'ho considerato, semplicemente perché io su Google Plus ho meno della metà, forse, oppure anche di meno, degli amici che Molti di meno. Sì. Vabbè, ma non è un problema questo. Basterà cliccare il cerchio e Google Plus vi darà una pagina con gli amici che cercate, più o meno come fate su Facebook. Sì, però è bruttina, secondo me. Guarda, a me onestamente l'interfaccia dei circos mi ha stupito, nel senso che è molto meglio di come aspettassi. Cioè, il fatto che io posso trascinare mi rende le cose un pochino più facili. Il fatto che posso dare dei nomi alle cerchie mi rende la cosa più facile. Che ne so, prendo il mio Google Plus, c'ho delle cerchie, una si chiama amici, l'altra colleghi, l'altra conoscenza. Ecco, quando mi aggiunge una persona che non conosco e la voglio aggiungere da qualche parte, la metto in, che ne so, gente interessante, ok? Certo, certo. È interessante, questa cosa è utile, è meglio che Facebook sulle cerchie proprio, non credo ci sia un... No, non c'è paragone. Anche perché Facebook ha recentemente eliminato la possibilità di mettere in lista gli amici in chat, fra l'altro. Allora, la chat, per favore, la lasciamo dopo perché... No, perché io ero un grande utilizzatore delle liste di chat. Sì, ma pure io, molti. Soltanto che Google, in questo caso, l'ha resa molto più semplice, molto più... Questa sì, secondo me è semplice, è accessibile, è tranquilla, cioè... Oh, guarda, per toccare uno dei punti dove secondo me Google fallisce, Plus fallisce, è un pochino, giusto un po', l'interfaccia è un pochino googoliana, cioè è dannatamente bianco e c'ha dannatamente poche cose. Ah, è molto semplice. Beh, secondo me non è un bene. Ma non è male comunque, secondo me. Sì, però è così pulita che io stento a trovare quello che voglio di primo acchitto. Magari se mettevano un paio, beh, questo è vero, un paio di cambi di colore nella pagina. Sì, io dicevo questo per quello che riguarda, cioè quando dico che secondo me Google è un, non è che confusionario, però non si capisce bene da dove devi iniziare. Sì, è questo quello che intendo. Ma hai chiaramente ragione, i problemi di interfaccia si possono cambiare tranquillamente. Ah, aspetta, ne voglio dire un altro proprio a sfavore, no? Sì, quando andate a vedere il vostro video porno, no? Che sì, utilizzate Google se non vi ricordate il sito del video porno, no? Sì. E vi appare accanto a Google, cioè siete loggati su Google, vi apparirà plus one. Supponiamo che per sbaglio voi premiate. Oddio, non ci ho mai pensato. Vabbè, però Garride, no, queste cose. Io ci ho pensato invece. Oddio. Guarda che è un qualcosa di spettacolare, cioè. Secondo me non ci hai pensato, ti è successo. No, successo no, però ci sono andato vicino col puntatore e ho detto: wow, ho il potere di rovinarmi, cioè, una vita. No, non tanto perché non ci sono molti amici su Google Plus. Pensate in generale quanta gente potrebbe rischiare questa cosa. Insomma, Plus One secondo me dovrebbe essere eliminato dai siti porno, dai. Vabbè, che che mica lo vogliamo eliminare dai siti. No, sto scherzando, è una bella feature quella di Plus One. È stupida, ma non è stupida per niente, anzi il modo per pubblicizzare Google Plus in fondo di Google. Perché io fra l'altro Google Plus l'ho conosciuto proprio perché su YouTube era apparso da poco un più uno e dovevo capire che cacchio era. Sì, a me Plus One mi ricorda un pochino Stumbleupon. Ne parlerà poi Murta, quindi non sì, mi rilancio. Sì, sì, dopo parliamo di Stumbleupon. Comunque, continuiamo un attimo con le features. Parleremo anche le foto. A me non piace come le ordino. Tra poco allora, le foto. Dunque, le foto sono un altro argomento abbastanza... Che divide abbastanza le persone. Per molti sono, tra virgolette, rivoluzionari, nel senso sono più semplici. Anche l'uploading, soprattutto se si usa Android, è più semplice delle foto. Io sinceramente le foto non l'ho provata come features. Io l'ho provata, te ne posso parlare se vuoi. Sì, io dico molto velocemente questo. L'unica cosa che ho visto è che va, forse per quanto riguarda la disposizione delle foto non è male, però non ho visto nient'altro, sinceramente non so che dire. Alla fine non lo so, dimmi, illuminaci tu. Guarda, allora, intanto proprio della disposizione ti avrei parlato, nel senso che, allora, non sempre questa cosa secondo me è piacevole, nel senso che quando tu apri un album, no? Per esempio ho creato un album con 31 foto, no? Lui prende, per creare la cosa un pochino più artistica, se vogliamo googoliana anche in questo senso, ti ingrandisce alcune foto e rimpicciolisce altre e ti crea una specie di mosaico nella pagina con tutte le foto che tu hai caricato in base alla loro grandezza. Sì. Ora, questa cosa non lo so, magari potrebbe capitare che una delle foto ingrandite non è proprio quella che tu vuoi mettere, come è capitato a me ad esempio, in primo piano, e questa cosa non lo so, non ti piaccia tanto, e questa non è una cosa modificabile. Poi ho notato che l'upload rispetto a Facebook è lentissimo e non ho ancora capito perché, ma è veramente lento. Cioè è lento se paragoni il caricamento delle foto in alta definizione su Facebook, e continua a essere più lento, quindi non lo so, non mi ha convinto questa cosa. Ok, allora le cose rispetto all'uploading delle foto erano abbastanza cazzate da quello che... E poi quando tu clicchi su una foto, ok, le funzioni sono uguali a quelle di Facebook. Per taggare si tagga, si clicca, insomma, cioè è abbastanza immediato. Però non mi piace che quando clicchi su una foto si apre come una nuova interfaccia, come, non so se l'avete presente, quei programmi di presentazione immagini che stanno dentro Windows. Ah, sì, l'ho visto. Sì. Che un po' ti porta lontano da quello che c'era prima, nel senso che su Facebook quando apri una foto, non da quando hanno messo le strisce nere, però prima tipo, rimanevi comunque dentro Facebook, cioè avevi questa idea. Invece adesso quando clicchi su una foto su Google Plus ti senti da un'altra parte. E ti posso dire la verità, a me sta cosa dà fastidio, pure su Facebook. Anche a me dà fastidio. Ma perché, cioè, Facebook l'ha presa, appena è uscito Google Plus, l'ha enfatizzata questa cosa. È sbagliata, secondo me. È sembrata ma loro la scelta. Ma che senso ha? Cioè, che cosa mi dà in più farmi vedere la foto in quella maniera? Che senso ha? Cioè, boh. Cioè, ti invade lo schermo, esatto, non lo so. Non ha senso. Questi modelli, cioè, boh, vabbè. Comunque, io non l'avrei mai progettato una cosa del genere se avessi avuto la capacità. È semplicemente seccante, cioè scomoda. Guarda, è scomoda. A me la cosa che piace sostanzialmente è il fatto che nella piccola preview che dà in basso ci siano già scritti i commenti, cioè mi dà una nuvoletta e mi dice 1, 2, 3, 4, quanti commenti. Ah sì, questo sì. E un'altra cosa, se non l'avete già fatto, io vi consiglio, prendete Firefox, mi pare che sì, anche un qualunque browser, schiacciate F11 così andate in vero full screen e provate quella feature di Google. Secondo me, se siete in full screen, comincia ad avere un senso quell'interfaccia, perché vedete la foto in definizione piena, in grandezza piena, ed è molto meglio, secondo me. Cioè, è molto più chiara la cosa. Sì, però se mi dessero la possibilità di eliminare questa feature, io sarei anche più contento. Ma ce l'hai con il nero o ce l'hai con la feature? Perché pure con il nero. Ecco. Beh, con entrambe in realtà. In realtà non mi piace la feature perché ti stacca perché è nero. Insomma, forse Google Plus fosse nero e non mi piacerebbe, la feature mi darebbe meno fastidio. Questo non lo so, sinceramente, è tutta una questione di colori che adesso non stiamo ad affrontare. Non so, perché ti allontana. Ti ha piazzato grande, hai ragione. Allora, parlerei di una feature interessante di Google Plus in più, che in un primo momento su Facebook non c'era. Sembra che sia stata implementata da poco o la stiano implementando, sinceramente non mi interessa, quindi non sto guardando bene. Si chiama Hangout su Google Plus. L'Hangout è praticamente una videochiamata di gruppo nel browser. È un po' una sorta di, diciamo che la videochiamata, se avete in mente Chat Roulette, è quella l'interfaccia. Chiaramente Chat Roulette è un'altra cosa, però fare una videochiamata di gruppo in un browser tramite Google Plus sembra, io non ho mai sperimentato ancora, però sembra che sia molto efficiente. Io l'ho sperimentata, è perfetta. Com'è? Perfetta. Non c'è lag in alcun modo. Si può fare con un numero virtualmente infinito di persone. E funziona molto bene, nel senso che, tipo, tu ti metti a parlare con tre persone, gli schermi, per esempio, ti compaiono in sovrimpressione tutti quanti i partecipanti con le loro webcam, e poi grande quello che ha parlato per ultimo. Chi sta parlando? Okay. Si ingrandisce automaticamente e switch automaticamente il browser in questo. E non lagga, tu dici? Non lagga. Fra l'altro, ci sono delle cose molto interessanti. Per esempio, io posso facilmente, tramite Hangout, spostare la visualizzazione dalla mia webcam al mio browser, per esempio. Cioè, se io ti voglio fare vedere un video di YouTube, clicco sotto, c'è proprio una funzione YouTube, clicco, e invece di me, della mia faccia, tu vedi il video che io ti voglio fare vedere. Ottimo, secondo me è ottimo questo. È molto bello. Secondo comunque, me è davvero ottimo. Questa recensione che stiamo facendo, sono un po' forzato a stare su Google Plus. Quando switch di nuovo su Facebook, devo dire, comincio a rimpiangere Google Plus. Anche sulle foto, fate quello che vi ho detto, secondo me vi rendete conto che Google Plus ha dei lati positivi. No, davvero molto superiore sotto certi punti di vista. No, ma infatti noi stiamo parlando come se Google Plus avesse a volte copiato, a volte fatto delle feature non proprio ottime. Vabbè, io rimango dell'idea, cioè io volevo dare questa valutazione alla fine, però lo dico adesso. Rimango dell'idea che secondo me Google Plus sulla carta è meglio di Facebook rispetto a quello che dà. Deve migliorare su alcune cose, però Facebook comunque continua ad essere, tra virgolette, il migliore, ma per altri motivi. Comunque, per finire, insomma, diciamo, andando ad analizzare altre feature importanti di Google Plus, l'abbiamo chiamata in causa prima, è la chat, o comunque la video chat, ne abbiamo appena parlato, la chat di Google Plus adesso. sconfiggere la chat di Facebook, sinceramente, riesco a farlo anch'io, che non so programmare. Perché la chat di Facebook, soprattutto dopo l'ultimo aggiornamento, secondo me, è una cosa invivibile. Non è mai stata in realtà vivibile la chat di Facebook, secondo no, me. No, allora era con le viste. Ma lascia perdere il fatto di il fatto delle liste, di dividere i tuoi amici come vuoi. Proprio la chat stessa, cioè il modo in cui è organizzata, schifo, la chat, sì. È programmata in Facebook la chat. Oh, non lo so, è come una sorta, cioè non mi ha mai convinto quella chat di Facebook. Non so se succede pure a voi, a me succede, forse sarà il mio computer. Però quando poco prima che arrivi un messaggio su Facebook, ci sono uno o due secondi in cui Facebook è come se si bloccasse. Cioè sta fermo, poi a un certo punto sente il rumorino e arriva il messaggio. Non mi succede, però la chat, nonostante non mi sia mai successo, mi ha sempre dato l'idea di una feature molto pesante da sopportare. Esatto, quello che voglio dire io, è molto pesante, non so dirti bene perché. Però è pesante, sì, concordo. È abbastanza pesante. La chat su Google Plus, secondo me, è una chat un po' più leggera, semplicemente. È la chat che c'è su Gmail, d'altronde. Ah, vabbè, sì, ma la chat su Gmail non l'ho quasi mai utilizzata. È la stessa, è proprio lo stesso programma trasportato su GPU. Beh, questo ha un senso, comunque. Certo, ce l'avevano, voglio dire, non è che... Comunque... GPU. Cosa? GPU, è bellissimo perché ho detto GPU, sembrava GPU, sembrava. Comunque, al di là di questa stupidaggine, volevo dire comunque queste chat sono... Non sono difficili da programmare, ma si basano comunque su... Hanno un funzionamento simile, cioè sono praticamente identiche le due chat. Sono pessime perché... Meglio, una abbiamo sperimentato a fondo ed è pessima, che è difficile fare una chat che funzioni in quel modo, fare un server side che gestisca i messaggi in quel modo. Non poteva essere perfetta. Secondo me fra un paio di anni saranno entrambe perfette. Quello che non mando giù non è come è fatta la chat, come funziona, sono le scelte di Facebook sulle chat, sono tragiche. More online friends, vi dice nulla? Sì, ne parlavo proprio in un mio stato qualche giorno fa, cioè non ha alcun senso. Cioè, perché dovresti dividere i miei amici già online in due gruppi? Cioè, lui lo fa in base alla tua attività, questo è poco ma sicuro. No, non è vero, non è assolutamente vero. Sì, perché io nel primo gruppo c'ho gente con cui non parlo mai. Anche questo è vero, però stavo notando che ogni tanto capita qualcuno con la quale hai recentemente... ha avuto un minimo di attività. Io non capisco il criterio, onestamente non lo capisco, perché non è sicuramente in linea con le mie attività. Sì, infatti mi aggiungo pure io, il criterio mi è abbastanza estraneo. Cioè, in realtà non è che mi cambi la vita alla fine, però è seccante, però, perché devi guardare l'ordine alfabetico due volte per vedere se c'è uno. Questo sì. Vabbè, che comunque anche su Facebook non è che abbia tutti questi amici, quindi alla fine sono molto, vado abbastanza tranquillo. Comunque un discorso molto, secondo me, forse il discorso più importante di questa battaglia, diciamo, tra Google Plus e Facebook, è la privacy e i dati. Dunque, la privacy su Facebook, correggetemi se sbaglio, è sempre stata criticata nel corso della vita di Facebook. Per quale motivo? Chiaramente, se voi avete un account Facebook e provate a cancellarlo, in realtà non è che lo cancellate, si disattiva. Disattivarlo significa che Facebook, anche se poi l'account non lo attiverete mai più, comunque Facebook continuerà ad avere i vostri dati, ciò su cui avete cliccato mi piace, eccetera. Leggevo che se qualcuno vuole cacciarsi completamente da Facebook, proprio cancellarsi completamente, deve mandare un'email o comunque una richiesta ufficiale proprio a Facebook stesso di cancellare qualsiasi dato. Ma anche in quel caso, siccome è Facebook stessa che deve cancellare i vostri dati, non si sa mai cioè non abbiamo la sicurezza vera e propria che Facebook li cancelli tutti, questo non lo sappiamo. Diciamo che la privacy su Facebook è sempre stata, non lo so, abbastanza strana. Non voglio dire, cioè non voglio criticarla, però è un po' abbastanza strana, perché conta che stare su un social network significa praticamente rivelare il, che ne so, il 70-80% di quello che sei, di quello che ti piace, di come sei, in un certo senso. E la cosa non mi è mai piaciuta fin troppo. La privacy su Google, diciamo che la privacy su Google non funziona proprio completamente, in modo completamente diverso. Noi quando ci iscriviamo in un qualunque sito, in una qualunque parte, in qualunque social network, non sappiamo mai che fine faranno quei dati, quindi non possiamo saperlo. L'unica differenza... In realtà se leggessimo il disclaimer lo sapremmo. Sì, beh, ma quello per tu, pure per Apple, pure per Apple. Certo, insomma, certo. Potremmo fare un Android versus iOS, ma lasciamo stare, perché ne uscirebbe una cosa abbastanza... Sulla privacy c'è molto da dire. Sì, sulla privacy. Un'esperienza abbastanza traumatica l'ho avuta l'altra volta, perché io cancello sempre i messaggi privati che ho su Facebook, quando sono abbastanza vecchi da non essermi più utili. E l'altra volta ho avuto un'ottima idea, ho detto usiamo Facebook Mobile, e ho provato Facebook Mobile dal mio telefono, che è logicamente un telefono Android come i vostri, insomma, e a un certo punto questo Facebook Mobile mi ha caricato tutti, e dico tutti, i messaggi che io avevo cancellato, cioè me li ha riportati in vita. Oddio. Ma parliamo di messaggi di 6-7 mesi fa. E questa cosa mi ha lasciato davvero, davvero molto perplesso. Questo è molto... Mamma mia. Pazzesco. Erano chiaramente deleted. Quindi vuol dire che la loro cache non era tanto deleted. Vorrei tanto sapere perché. Non me lo chiedo neanche. In realtà lo so il perché. Lasciamo perdere, va. Molto semplicemente la privacy su... Diciamo, settare i parametri della privacy su Google Plus è più semplice. Facebook ti fa perdere molto sulle pagine in cui puoi farlo. Non sono mai stato troppo convinto della politica sia di Facebook che di Google Plus e in generale di tutti i social network rispetto ai dati personali. Però il fatto che Facebook ti dica che il tuo account viene disattivato invece che cancellato, che è una cosa completamente diversa, un po' mi fa storcere il naso. Comunque non saprei più che dire oltre questo sulla privacy, solo che lo sanno solo loro che cosa ci fanno. Beh, poi se vai a cercare il tuo nome adesso non sei più un anonimo, se vai su Google cerchi il tuo nome intanto esce come primo risultato Facebook, per esempio, no? Quindi se uno ti cerca ti ha trovato senza neanche avere un account Facebook, in fondo. E poi il fatto che a destra ti escono sempre le pubblicità che magari l'80% delle volte te ne fotti, però un 20% di volte ti sarà capitato di dire ma a me è successo. Alcune sono, cioè, io pirate, tristemente. Le pubblicità su Facebook sono fatte alcune... per te. Sono fatte per sì, te. Ma cioè a me non capita mai di interessarmi alle pubblicità, che come penso anche a voi d'altronde, no? Mentre quando navigo. Però ogni tanto su Facebook qualcuna veramente che mi ha preso e sulla quale ho cliccato c'è stata. Hai ragione. Sì, in effetti un paio di volte. Comunque raramente, ma accade. Sì, no, è accaduto. Già è tanto che sia accaduto. Voglio dire, a me una pubblicità non mi è mai riuscita a prendere. In effetti Facebook è fin troppo potente. Comunque diamo un dato molto importante. Facebook ha registrato, mi pare un mese fa o due mesi fa, 750 milioni di accessi unici. Che cosa significa? Che 750 milioni di IP diversi hanno loggato in Facebook in un giorno. Secondo me è un dato... Cioè io quando l'ho letto ho detto, beh, Facebook ha conquistato il mondo. Ha conquistato il mondo, perché... ma Zuckerberg è probabilmente l'uomo più ricco del mondo, perché 750 milioni di accessi unici al giorno sono un quantitativo impressionante. Però c'è da dire anche questo rispetto a Google Plus. Google Plus dal giorno d'oggi conta circa 22 milioni di 22 milioni di utenti. Quello che è importante da dire è che l'11 luglio di questo anno, chiaramente, gli utenti di Google Plus erano poco più di 4 milioni. Due giorni dopo, solo due giorni dopo, il 13 luglio, erano oltre i 10 milioni. Cioè in due giorni una rapida ascesa di Google Plus pazzesca. Chiaramente se dovessero continuare così gli iscritti, ma è improbabile che continuino proprio così. No, si è fermato. Beh, sì, secondo me si è fermato. Comunque, ragazzi, questa è la domanda finale che vi pongo, che ci poniamo. Può Google Plus battere Facebook? E in generale, può essere battuto Facebook come piattaforma di social network, diciamo, di interfaccia a 360 gradi? Chiaramente non sto parlando del fatto che Twitter possa battere Facebook, io sto parlando come un analogo di Facebook possa battere Facebook, in questo caso l'unico sul mercato è Google Plus. Ti rispondo io? Sì. Posso? Sì, sì. Allora, per quanto mi riguarda, Facebook è già stato battuto da Google Plus, nel senso che è quasi indubbio che Google Plus sia costruito meglio di Facebook per tutti gli aspetti, oserei dire. Il vero punto è che battere in questo senso, il senso della qualità, non è anche battere in senso quantitativo. Chiaro. Cioè, il fatto vero è che non, anche qualora uscisse un'interfaccia molto meglio di Facebook, come appunto Google Plus, se le persone non sentono una vera motivazione per spostarsi, e anche perché oggettivamente ci sono molti motivi per non spostarsi, per esempio io ho 2000 foto caricate su Facebook e mi secca rimetterle tutte lì, ritaggare tutte le persone, insomma, tutte queste cose qui. Sì. E quindi fin quando la vincere a livello qualitativo non coincide con vincere a livello qualitativo, questa cosa rimane un po' un tabù. Non si può andare avanti. Secondo me hai centrato perfettamente il punto per il quale, secondo me, sul punto di vista proprio dell'utenza, perché purtroppo, volendo o non volendo, il vero vincitore, cioè dando dei pesi alle varie sfide, diciamo, tra Google Plus e Facebook, la sfida dell'utenza, secondo me, è quella che ha un peso maggiore. Facebook, come hai detto tu, cioè secondo me il problema sta nel fatto che Facebook ormai è troppo radicato nell'utilizzatore. Cioè io passerei tranquillamente a Google Plus, ma se ci fossero già tutte le cose che ho su Facebook, certo ci passerei, ci andrei, se sapessi che magari chi frequenta Facebook passasse a Google Plus a frequentare Google Plus, ci passerei subito, adesso. Ma non lo faccio e ho paura, sinceramente, lo dico molto sinceramente, ho paura che non lo farò mai, perché su Facebook ormai c'è tutto quello che mi serve. E cambiare, è come trasferirsi di casa, adesso sì, chiaramente non è la stessa cosa, però il concetto è quello, cioè trasferirsi significa prendere tutto e portarlo là, e non sai cosa ci trovi, cioè devi chiaramente trovare quelli che lasci da Facebook. Certo, certo. Il problema è che Facebook ormai ha delle radici profonde. E sradicare queste radici non dico che sia impossibile, però sarà molto difficile per Google Plus. E comunque ricordiamo che Google Plus ha ancora vari assi nella manica. Ci sono vari aggiornamenti. È nuovo Google Plus. Vediamo che cosa accade. Secondo me ci può ancora stupire. Se Gary non vuole dire qualcosa, altrimenti passiamo ai Rock and Roll. No, vabbè, come al solito mi tengo per ultimo. Dico che Google Plus è bello e va, forse in un lontano futuro avrà un numero di utenti decente. Posso dire solo questo. Al momento non ha un numero di utenti decente in Italia. Altrove, secondo me, è già interessante, come detto. Come Twitter. In Italia ha un lancio molto più lento. In effetti sì. Va bene, ragazzi, è stata una discussione molto interessante e molto faticosa, non so per voi. Dunque è il momento un po' di svagarsi. Andiamo con i Rock and Roll e sigla. Let's plug it in. It's gonna say, hey, I see you plugged in a new device, and it's gonna load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build, whoa. Moving that right along. That must be why we're not shipping Windows 98. Absolutely. Yet. Absolutely. Bene. Quanto adoro la sigla? Come? L'ho già detto, forse. Cosa? Quanto adoro questa sigla? Sì, sì, ma la adoriamo tutti questa sigla. Anche io ci sto pensando. Vuoi partire tu col tuo rock and roll? Io intanto devo cercare il mio perché mi sono perso tra migliaia di pagine su Google Plus e Facebook. Caspiderina. Va bene, parto io allora. Vediamo. Il mio argomento rock and roll, logicamente, come al solito, sta sul sito, insomma, vedrete il link. È davvero una cosa spettacolare che ho trovato in giro sulla rete. È un ragazzo che ha preso in mano un certo numero di pezzi, se vi ricordate, forse li avete avuti anche voi qualche volta sotto mano, della Lego. In particolare, se non erro, lui ha preso il set della Mindstorms. Mindstorms era il set montato, insomma. E dunque? Stia. Non ti sento benissimo, Gary. Sì. Ora? Garriden? Ci sono problemi? Sì. No. Vabbè, mentre Garriden risolve i problemi, vado avanti io. Dunque, scusate. Dunque. Doom e Doom 2. Un attimo che questi ragazzi... Sì, raga, la sto abbassando così. Allora, Doom e Doom 2 non sono più classificati come porno in Germania. Che cosa vuol dire? Che un attimo. Qua è successo il bordello. Allora, fatemi spiegare. Per molto tempo, fino a praticamente un mese fa, Doom e Doom 2, quelli di ID Software, quelli vecchissimi, primissimi, se la finiscono di spammare su Skype, magari riesco pure a parlare. Allora, Doom e Doom 2 in Germania erano classificati come porno, nel senso che erano visti come materiale simile a materiale pornografico, cioè ristretto come materiale pornografico, per qualche motivo che sinceramente non capisco. Sempre basta in Germania. O quando muori, insomma. Oddio, stiamo degenerando. Allora, è successo questo, che chiaramente dopo tantissimi anni di rinvii, di diciamo di prove per cercare di portare Doom di nuovo ad un livello giocabile che non fosse assimilabile al porno, finalmente è stato declassato, se così possiamo dire, comunque cambiata la classe, il rating sia di Doom che di Doom 2. Prima in Germania, in pratica, come i materiale porno, Doom e Doom 2 non potevano essere commercializzati in diciamo pubblicamente, servivano in un certo senso dei negozi più specifici, come appunto i porno shop nel caso dei porno, soprattutto, per esempio, se magari un videogiocatore voleva mettere online su un asta online Doom o Doom 2, non poteva farlo perché era contro la legge. Stessa cosa che accade appunto con i porno, diciamo, almeno in Germania. E niente, il rock and roll in questo è che non si capisce. Cioè, sì, magari Doom è un gioco abbastanza cruento, però a classificarlo come porno, sinceramente, non mi viene. Ma magari dovrebbe essere stato Duke Nukem, ma magari ci sono delle scene. Invece è Doom e Doom 2. Vabbè. Allora, Garriden, sei tornato? Io ci sono, mi senti? Sì, prego, continua. Riprendo brevemente la news, dove parlavo, insomma, di questo tizio che ha preso dei Lego Mindstorms, che sono una serie di Lego, quelle un pochino più interessanti dal punto di vista robotico, sì. Per costruire un piccolo robot da tavolo che con l'ausilio della videocamera della Mindstorm, insomma, programmata da lui stesso per avere un color recognition software, insomma un colore per un programma per riconoscere i colori, ecco, è riuscito a fare questo piccolo robot che è in grado di risolvere il cubo di Rubik. Certo, lo fa molto lentamente, ma lo risolve con uno degli algoritmi che potete trovare anche sul web. È interessante, il cubo di Rubik non è esattamente il cubo che comprate voi, o meglio, è lo stesso, ma c'è un po' di silicone lubrificante tra le facce, perché altrimenti non sarebbe facile per un robot con un motore così piccolo ruotarlo. Ed è spettacolare. Qualcuno ride di silicone lubrificante, suppongo. Il cubo di Rubik di John Holmes. Sì, il cubo di Rubik di John Holmes. Comunque, che dire, guardatevelo, il tipo sta seriamente fuori ed è interessante vedere come anche in casa si possono fare cose simili. Se volete prendere i Lego Mindstorms, ci ho già pensato, costa veramente tanto, intorno ai 400 euro senza contare i costi aggiuntivi che potreste avere, insomma, necessitare per completare il progetto. Quindi, non so, try this at home, ma solo se avete i soldi, ecco, questo è il punto, e se siete abbastanza geniali. Magari se ti vendi il microfono te lo prendi anche, il robottino della Mindstorm. Ce l'hanno col mio microfono, è uno Shure SM57, dai, diciamolo. Sì, ma sì, vantatene, vantatene. Posso abbassare l'audio perché siamo invidiosi, bastardo, no? Così ti impari a prendere un microfono. Ma lo uso per altri propositi. Sì, vabbè, sì. Okay. Bene. Bene, allora, signor Rampage, ho detto i microfonini di merda della Trust, il mio rock and roll è recentissimo, risale a stamattina, e io ho scelto di portare me stesso come rock and roll. Wow. Ebbene, stamattina la cosa mi pare abbastanza macabra. Allora, dov'è il nerd? Il nerd sta soltanto nella facoltà per cui io ho scelto di fare i test, ok? Che per chiarezza è fisica. Poi, il punto qual è? Che che ho fatto una cosa veramente da rock and roll che merita un posto in questo podcast. Cioè, allora, ora non sto a spiegarvi come è diviso il test. Comunque è diviso in fascicoli, e c'era il fascicolo ovviamente di fisica. Allora, le risposte multiple andavano risegnate in una griglia che poi andava corretta, va mandata al CISE, che è l'ente che si occupa di queste cose, che poi lo controlla tramite una macchina, un terminale che ti dice quanto hai fatto. Sì, comunque tutti nel i test sono copiare comunque. Nel copiare la griglia praticamente delle domande di fisica, poiché la seconda domanda mi aveva lasciato un po' perplesso, io mi sono bloccato un attimo e ho scritto i risultati di tutte le altre domande, andando a ricopiare alla fine perché mancavano solo 2 minuti. Ho cominciato a copiare le risposte giuste dimenticandomi che la seconda non l'avevo fatta, per cui partendo dalla seconda ho scritto alla seconda il risultato della terza, alla terza quello della quarta e così via, e ho consegnato e ho consegnato il test in queste condizioni. Quindi io probabilmente entrerò a fisica perché la soglia è molto bassa e mi rifaccio con gli altri fascicoli, ma con 0 in fisica. Caspita, mi piace. Bellissimo. È da rock and roll. Quando i professori guarderanno le griglie, se non entri in fisica hai sempre un posto qui a lavorare con noi, ti pagheranno gli spagnoli, dai. Ma sì. Grazie spagnoli, senza di voi non esisteremmo probabilmente. Vabbè, dai, ci siamo fatti un po' di risate dopo questi argomenti un po' più tosti. C'era da piangere a quella di Rampage, eh? C'era da piangere. Sì, no, ma infatti... Pensa a me stamattina. Infatti non sapevo se ridere o se piangere, però siccome siamo nei rock and roll, ridiamo. Allora, rockeggiamo, dai. Bellissima comunque, bella storia. Guarda, hai un culo per il fatto che non sono test selettivi, se no... Sono selettivi, se no quale sarebbe il problema, scusami. Ah vabbè, ma scusa, quanti siete iscritti? Adesso questo non c'entra, è selettivo lo stesso. Ma che vuol dire? Siamo 34 su 75, ma è comunque selettivo. Cioè, se non fai il minimo non entri. Facoltà abusiva comunque, eh. Dai, facoltà abusiva. Io lo dico. Entra, poverino, dai Lu, non ti preoccupare. Eravamo 40 iscritti, ma stamattina se ne sono presentati 34, facoltà quindi avanzano abusiva, più della metà dei posti, praticamente. Vabbè, questo probabilmente agli ascoltatori non interessa, però è stato bello sapere un po' di pillole di vita quotidiana di Rampage, che ci fa sempre piacere. Bene, bene, bene, bene. Andiamo avanti. Seconda canzone. Alziamo il volume. Seconda canzone. Come detto prima, esploriamo molto i generi. Questa volta è un genere che personalmente non mi piace tantissimo, però... proprio perché mi piace esplorare i generi, qualsiasi tipo di genere, la voglio inserire. Il genere in questione è death, io lo chiamerei death metal, melodic death metal, non lo so, sinceramente. Lo so, Garriden è un pochino contro. Se vuoi cacciati le cuffie, non lo so. Allora, sono finlandesi, si chiamano Morai Hell, o Morai Hell, la canzone si chiama Healer and Death. E fra poco. Solo su Nerdcast. Solo su Nerdcast. Bene, ci voleva, ci ha pompato un po', almeno a me ha pompato. E partiamo con i giochi giocati. Abbiamo anche una sigla, e che è questa qua. Io mi innamorerò ogni volta che suonerà questa sigla. Benissimo, la stiamo donne, amando. Fatevi avanti con questa sigla alla porta di Rampage. Allora, chi vuole iniziare con i giochi giocati? Inizio io? Inizio tu. Inizio io. Allora, in realtà giochi giocati, cosa abbiamo giocato nell'ultimo periodo? Io soprattutto due titoli. Il primo si rifà alla sigla, praticamente dei giochi giocati, cioè Monkey Island. Ho giocato i primi 4 Monkey Island, mi mancava il quinto, cioè Tales of Monkey Island, che è uscito nel 2009, io avevo snobbato per qualche motivo, per qualche inutile motivo, perché è un gioco meraviglioso. Ho giocato tutti e 5 i capitoli e devo dire che non mi ha deluso. Credevo fosse qualcosa di diverso dai soldi di Monkey Island. In realtà lo spirito di Monkey Island l'ho sentito. L'unico problema, tra virgolette, problema è che non è più un vero e proprio punta e clicca come erano per esempio Monkey Island della Lucas Scum, ma comunque non mi è scaduto, devo dire la verità, non mi è scaduto, mi è piaciuto, è stato molto bello. Anzi, per chi non conoscesse Monkey Island, io probabilmente lo consiglierei, anche perché come giocabilità in 3D è sicuramente molto superiore a Monkey Island 4, che Escape from Monkey Island si chiamava, che sinceramente come controlli mi ha dato un fastidio tremendo. Comunque Tales of Monkey Island, edito, prodotto da Telltale Games. Ci sono tantissime offerte sul sito di Telltale, che è anche produttrice per esempio dei Sam & Max in 3D, Ritorno al Futuro. È una casa produttrice molto molto interessante, vi consiglio di andare a vedere il sito, molto spesso ci sono varie promozioni. Io per esempio Tales of Monkey Island, tutti e 5 gli episodi li ho presi, mi pare, a 4 euro, tutti e 5. È stato un'occasione pazzesca. Poi ho giocato anche ad un gioco abbastanza recente. Sto parlando di Deus Ex Human Revolution. Dunque, Deus Ex Human Revolution, per così tutto io fini il primo Deus Ex, che non mi ricordo neanche di che anno era, Garriden, che anno era Deus Ex il primo? Cioè l'ultimo Deus Ex prima di questo, lo ricordi? Beh, c'era il 2, Invisible War. Quello epico, come si chiama? Non mi viene. Non ho capito, parli del primo? Sì, quello, il Deus Ex, mi pare il 3. Allora, cioè, la trilogia è Deus Ex primo, che è solo Deus Ex, Deus Ex 2, Invisible War, e infine Deus Ex 3, che è questo, Human Revolution. Ah, no, io dico allora il primo ti ricordi più o meno l'anno? Parlavamo, non te lo so dire, 1998, voglio azzardare, controllo subito. No, è un po' più avanti in realtà, secondo me. Vabbè, googlatelo, vabbè, ma non è importantissimo, comunque... il primissimo, allora, Deus Ex. Beh, 2000. Ah, allora, il primissimo Deus Ex, ecco, neanche mi ricordo qual era, figuriamoci. L'ho giocato solo una volta, finito solo una volta, e mi è piaciuto. Non fin troppo, a dire la verità, perché c'erano degli elementi molto originali, molto belli, ma mi scadeva un po' in alcuni frammenti di gameplay. La stessa cosa l'ho provata per questo Deus Ex Human Revolution. Allora, intendiamoci, secondo me Deus Ex Human Revolution per gli FPS è un discorso a parte, nel senso che nella bolgia gigantesca degli FPS Deus Ex Human Revolution ha qualcosa di diverso, dà qualcosa in più. Le sezioni stealth, il fatto che sia un FPS tra virgolette free roaming, il fatto di dare una sorta di libertà e non darla allo stesso punto, ma la cosa non pesa. Il fatto di scegliere se essere un assassino, dunque andare con armi pesanti, o di essere, avere più una politica, tra virgolette, stealth, non è assolutamente male, anzi è molto originale, l'ho apprezzato. Il problema che mi fa praticamente degradare Deus Ex di molto è che ci sono sempre dei frammenti di gameplay che purtroppo non sono adattati bene con le idee, secondo me. Una su tutte è l'intelligenza artificiale dei nemici, che è davvero orrenda, è orrenda, rende il gioco ingiocabile, perché è come se i nemici avessero, a talvolta sembra che avessero un radar grazie al quale ti vedono anche se sei magari dietro una parete. Altre volte invece sono totalmente ciechi, nel senso, se ti abbassi davanti a un nemico è possibile che quello tipo ti perda di vista, mentre in realtà sei semplicemente abbassato davanti a lui. Ed è una cosa che davvero penalizza di tanto il gameplay. Peccato, perché davvero ha delle potenzialità interessantissime. Comunque, devo dire la verità, ci ho giocato le prime 5, massimo 6 ore. Credo di finirlo, quindi mi esprimerò meglio quando l'avrò finito. Però devo dire questo, un po' mi ha deluso, però ha delle grandi possibilità. E io ho giocato questo. Garriden? Riguardo Deus Ex, intendi? No, se hai giocato qualcosa, se no passiamo. Non ho giochi giocati perché mi sono andato a retro gaming, lo sai. Beh, puoi dire anche cosa hai giocato di retro gaming, magari ti ha preso. Ma ne parliamo dopo. Vabbè, vi la lascio per la sezione retro, va. Va bene. Rampage, che cosa hai giocato di recente? Sì, allora, io in realtà per la puntata di tanto tempo fa avevo preparato un intervento su Metro 2033, soltanto che in questo momento mi preme più parlare di un gioco che ho giocato ultimamente, che è anche abbastanza recente, risale alla prima aprile del 2011, e si chiama Limbo. Allora, non so se voi due lo conoscete come gioco, comunque è un gioco indie. Intanto diciamo che è sviluppato dalla Playdead, che è una casa di videogiochi danese indipendente, che è una cosa molto carina. E poi si tratta di un tipo di gioco puzzle platform in due dimensioni, con una grafica che comunque ovviamente è una grafica da 2011, quindi nonostante siano soltanto ombre, puramente ombre, tutto nero, bianco e sfumature di grigi, è una grafica che si presta molto all'HD comunque. Di questo gioco mi hanno colpito alcune cose. Innanzitutto che comincia e non ti dà alcuna indicazione né sui comandi né sulla traccia, né sulla trama, perdonatemi, del gioco. Cioè tu ti ritrovi in questa dimensione paranormale, con queste musiche costruite magistralmente, secondo me, che più che musiche sono, non so, i sottofondi della foresta, del limbo appunto in cui ci troviamo, e veniamo catapultati in questa dimensione che insomma, è un'esperienza di gioco molto interessante, per quanto poco costi il gioco, che mi pare si orienti tra gli $11 su Steam, una cosa del genere, $14 forse, ora non ricordo di preciso. Fatto sta che leggendo la trama su Wikipedia ho scoperto che noi impersoniamo un ragazzino che si ritrova nel limbo, in una foresta molto macabra, molto dark per molte cose, alla ricerca della sorella scomparsa, della sorellina scomparsa. E si può andare soltanto avanti, come tutti gli arcade, diciamo, di un tempo, e bisogna andare avanti risolvendo alcuni enigmi, alcune situazioni difficili, ma che posso dire, cioè non è che sono degli enigmi del tipo trovi un ragno con le zampe molto appuntite che ti vuole uccidere, allora tu per esempio devi correre attraverso le sue zampe per non farti uccidere, cioè sono cose di questo tipo, che in alcuni momenti devo dire richiedono una abilità nell'utilizzo della tastiera talmente notevole che io stesso mi sono bloccato a un certo punto e ancora oggi non riesco ad andare avanti, perché c'è uno di quei tipici salti impossibili che fanno parte della storia degli arcade da sempre, no? Ne parlavamo l'altro giorno con Dario, di uno simile in... che gioco era? Era... E Indiana Jones e la tomba. Indiana Jones, esatto. E quindi c'è, cioè, un gioco molto, molto carino da questo punto di vista. Io ho letto che si tratta di 4 ore di gioco totali, però secondo me sono un po' di più in realtà. E devo dire che consiglio di giocarlo con un'assoluta serietà, più degli altri giochi, nel senso che bisogna mettersi là davanti o con delle cuffie o con delle casse ad alto volume e godersi a schermo intero il gioco con le musiche di sottofondo, e guardate che è un'esperienza molto interessante e che prende molto comunque. Quindi io ve lo consiglio senza aggiungere altro. Sì, sì, sì, io approvo tutto quello che ha detto Rampage. Limbo è bellissimo, ma comunque Sì, è uno di quei giochi che non, in realtà non puoi dargli un voto, una valutazione, perché è una sorta, è più un'esperienza che un gioco. Esatto. È più un'esperienza. Bene, bene, bene. Questi erano i nostri giochi giocati. Se Malloman ha giocato qualcosa, non lo sapremo mai e sinceramente non ci interessa. Oh, vabbè, no, sì. Però non è qua, come abbiamo detto, è al mare al momento, quindi, mentre non è carino parlare degli assenti. Vabbè, no, sì, è carino, va bene, è carino. Mamma mia. Ok, dai. Noi, come saprete, abbiamo... Anzi, soltanto io avevo una rubrica personale. Adesso anche Rampage, a partire da questa puntata, ha una sua rubrica personale. Il titolo della rubrica, correggimi se sbaglio, è Il vecchio Packbiter. Giustissimo. Ok. Allora, io lancio la sigla. Alla fine tu parla, magari spiega che tipo di rubrica è, e interverremo anche io e Garriden se è necessario. Dunque, se sarete sigla... all'altezza. Ok. Cioè, addirittura. Sì. Vecchio Packbiter. Questa sigla è meravigliosa. È bellissima. Prego, spieghi pure che cos'è questo. Sì, sì. Allora, intanto partiamo dal titolo, che è esplicativo. Che cos'è Il vecchio Packbiter? È nonché titolo, nonché argomento, primo argomento della mia rubrica, che noterete essere molto molto breve, in quanto molto molto brevi vogliono essere, diciamo, sono stati costruiti gli argomenti di cui vado a trattare. È una rubrica dedicata a tutte quelle voci inascoltate dei videogame. Quando voi giocate e vi trovate con il vostro personaggio tutto figo perché il protagonista è disegnato meglio degli altri, ha tutti i motori grafici per sé, eccetera, e ignorate invece quelli che sono dei personaggi di i migliori personaggi non protagonisti, che invece sono personaggi chiave per andare avanti nelle vostre storie. Quindi uno di questi è sicuramente Il vecchio Packbiter. Il vecchio Packbiter che cos'è? È il coccodrillino, nonché animale domestico, dell'innkeeper dello Swamp Rot Inn di Scab Island in Monkey Island 2. E non ci ha capito niente nessuno, secondo me. Allora, ci troviamo dentro Scab Island, c'è l'albergo, ok? Stiamo quindi parlando di Monkey Island, quello che gestisce l'albergo di Monkey Island 2, è un uomo tutto indaffarato che come animale domestico ha questo grazioso coccodrillo che lui chiama il vecchio Packbiter. Ora, il vecchio coccodrillo è, come dire, bestialmente legato contro un palo di legno, in quanto il suo padrone teme, dovuto alle esperienze precedenti, che questo possa mordere o attaccare qualche abitante di Scab Island, e quindi lo tiene lì legato. Ora, io non voglio spoilerare il suo utilizzo, diciamo, nel gioco di Monkey Island 2, perché penso che le persone degne di ascoltare questa rubrica già lo dovrebbero sapere. Comunque, il punto è, e adesso qui parte uno spoiler. Andate avanti di un minuto. Il vecchio Packbiter è utile perché, chi se lo ricorda, è necessario tagliare la sua corda perché questo scappi via e diciamo si guadagni l'attenzione dell'innkeeper, che così fugge insieme a lui e lascia praticamente la hall dell'albergo incustodita. In questo modo noi possiamo continuare a fare le nostre porcate liberamente senza mai più rivedere né lui né il vecchio Packbiter. E quindi questa era, diciamo, il battesimo della mia rubrica. Sentirete parlare di altri personaggi secondari a cui non avete mai fatto caso nelle prossime puntate. complicatissimo. Comunque, soltanto spiegare il nome è complicatissimo. Va bene, dunque, il primo personaggio del vecchio Backbiter era il vecchio Backbiter, da quello che capisco. Certo, certo, certo. Ah, ok. Dunque, a lui finisci, è dedicato. Finisci qui la tua rubrica, vado con la mia? Sì, sì, si può andare avanti. Ok, allora riposatevi pure voi due, visto che non me ne frega niente di manga e Giappone. Vado avanti io, cercherò di essere breve, perché chiaramente stiamo sforando. Sigla. Dunque, poche in realtà, molto sinceramente, le notizie interessanti del mondo di anime e manga comunque. Sì, animazione giapponese. C'è da dire che però la classifica di Shonen Jump, del numero 39 di Shonen Jump, è molto interessante, ne parlerò più approfonditamente fra poco. L'unica news che vi voglio dare, diversa insomma da Shonen Jump, è questa. La Dream Factory Studio, che è una casa di produzione indipendente di film, soprattutto di corti, sta producendo una serie, da quello che si capisce, una serie a puntate, appunto, di un live action movie di Saint Seiya. Saint Seiya in italiano, cioè in Italia, è conosciuto come i Cavalieri dello Zodiaco. Dunque, un live action movie dei Cavalieri dello Zodiaco, cioè fatto, in altre parole, con attori in carne ed ossa che prendono parte, cioè diventano i personaggi dei Cavalieri dello Zodiaco e seguono in un certo senso la trama. Allora, è molto interessante. Non vi voglio dire, cioè non voglio dare dei pareri su questo lavoro, perché io ne ho visto poco, sinceramente. Ho visto soltanto il primo episodio, che mi ha convinto in certi casi, non mi è piaciuto per niente in altri. Io vi dico soltanto, andatelo a vedere, giudicate voi, soprattutto se siete fan dei Cavalieri dello Zodiaco. Detto questo, passiamo alla classifica di Shonen Jump, che è molto interessante. Allora, partiamo, diciamo, dalla classifica vera e propria. I primi 5 posti sono Kurogane, One Piece, Toriko, Arisugawa in Mirror World e Naruto. Come sempre, diciamo anche gli ultimi 3, che sono Enigma, Magico e Reborn. Sopra però, sempre nella parte bassa della classifica, abbiamo, come ormai da qualche settimana questa parte, Bleach e Nurario no Mago, che in italiano, nella edizione italiana, si chiama Il Signore dei Mostri. Su Bleach e Il Signore dei Mostri voglio spendere due parole adesso. Allora, Bleach si trova quindicesimo in una classifica di 20. È in un posto molto basso della classifica, quando, cioè, se parliamo di Bleach dobbiamo almeno parlare dal quinto posto in su, dal sesto in su, perché Bleach è un capolavoro. Però ormai, come sappiamo, Bleach sta decadendo. L'ho spiegato anche nelle scorse puntate il perché, secondo me, ma devo dire che a partire proprio dall'ultimo capitolo, che non spoilererò, devo dire che secondo me Bleach può riprendersi, finalmente può riprendersi, è finita quella parte strana che sembrava più un filler che altro, e adesso può riprendersi e vediamo un po' che cosa ha combinato Tecubo, perché ha soltanto la possibilità, altrimenti Bleach, mi dispiace, ma finisce. Il Signore dei Mostri purtroppo non lo sto seguendo tramite le scans dei manga, sto seguendo soltanto l'edizione italiana, che mi piace tantissimo, e in effetti vederlo al sedicesimo posto mi sembra molto strano. Comunque, forse la cosa più interessante della classifica di Jump è il ritorno di Hunter x Hunter. Hunter x Hunter finalmente ritorna, come abbiamo detto, entra nella parte media della classifica, proprio al centro della classifica, è una buona posizione. Io spero sinceramente che Hunter x Hunter si avvii verso una fine, perché se le condizioni, se dobbiamo aspettare sempre 6-7 mesi per un capitolo di Hunter x Hunter, anche 2 o 3, tanto vale finirla. Purtroppo Hunter x Hunter mi piace tantissimo, ma se questa è la situazione non possiamo andare avanti in eterno, secondo me. Comunque in prima posizione, ma perché è il manga new entry di Jump, c'è questo Kurogane. Io ho cercato varie foto o informazioni anche sulla trama di questo manga, purtroppo non ho trovato niente, proprio perché è nuovissimo e c'è poco da dire in realtà. Posso soltanto commentare le pochissime immagini che ci sono. Si vede questo ragazzo, cioè la copertina di Jump numero 33, 39, ha questo ragazzo che sembra una sorta di liceale con una sorta di katana in mano, e forse tutto può simboleggiare una sorta di ritorno sempre alla situazione scolastica del Giappone, che è un po' è sempre è trita e ritrita. Io spero che non sia così, perché è una cosa molto sempre riproposta nei manga, magari è inevitabile, però sempre mostrare le scuole giapponesi, i ragazzi che vanno nelle scuole giapponesi, un po', non lo so, mi dà un po', non fastidio, però è come già visto. Comunque staremo a vedere, non l'ho letto, ripeto, non so la trama, vedremo nella prossima puntata di Nerdcast. Invece, ultimissima cosa da dire è che al quarto posto abbiamo questo manga che è abbastanza sconosciuto, che però si piazza al quarto posto, addirittura sopra Naruto, che si chiama Risugawa in Mirror World. Perché è importante? Allora, come sapete, bisogna fare una distinzione tra shonen e shoujo. I shonen manga sono i manga destinati ad un pubblico di ragazzi, dunque di uomini. I shoujo sono più destinati ad un pubblico di femmine, di ragazze. Shoujo in Weekly Shonen Jump, come dice il titolo stesso, ce ne sono davvero pochi, se non proprio per niente. Arisugawa in Mirror World è uno shoujo manga, dunque tratta sempre delle storie super pompate, se vogliamo dire, d'amore tra i giapponesi, improbabilissime se volete il mio giudizio, ma comunque secondo me merita, perché farsi strada in uno shonen, in una rivista per ragazzi, è molto buono, è ottimo. Io non l'ho seguito, è uno dei pochi manga di Shonen Jump che non seguo periodicamente, però vi darò un'occhiata in questo senso, dategli un'occhiata anche voi, magari resterete abbastanza soddisfatti. Bene, io ho finito la mia rubrica. Passiamo a i retro game. Voi ci siete? Siete vivi, sì? Dario si è sopravvissuto. Ok. Incredibile, ma vero. Mamma mia, come... Vabbè, lasciamo stare. Dai, questa è la sigla. Questa è la sigla Retro Space, sperando che la sia e non ci picchi. Retro Space. Allora, avrete riconosciuto Rick Astley probabilmente. Ad 8 bit, però è Rick Astley. Dunque, Retro Space, cosa abbiamo giocato o cosa vogliamo riproporre di vecchio, di old? Direi di fare iniziare da Garriden. Garriden, vuoi iniziare? Caspita. Tu? O? Va bene? Pensa tu, che onore. Va bene, un piacere. Prima hai taciuto. Sì, è un piacere perché porto avanti un gioco che secondo me davvero non dovrebbe avere bisogno di presentazioni. Purtroppo ce l'ha perché non tutti lo hanno giocato, ma fidatevi, è un gioco da giocare, e si chiama Tyrian Tyrian 2000 in particolare. Ora non ricordo bene se il 2000 è legato a un'esigenza di versione o meno. Sì, credo proprio se fosse una riedizione. Io vi dico, giocate l'originale, giocate Tyrian, che è un gioco davvero spettacolare. Si tratta di uno sparatutto a scorrimento verticale. Vi starete chiedendo che cosa cazzo è uno sparatutto a scorrimento verticale. È un modo cosa molto italiano per dire quegli sparatutto vecchio stile, dove sostanzialmente si va avanti in verticale. Mi vengono in mente un paio di titoli scrausi, tipo Tyrian, appunto, stesso Overkill, era un altro gioco di questo tipo. Sostanzialmente in Tyrian siete una navicella, e davanti a voi vi si pongono un certo numero di nemici che sono un po' di tutto. Sostanzialmente dovrebbe essere navicella, ma fidatevi, sono davvero disegnati in maniera creativa e onestamente con una grafica davvero spettacolare per i suoi tempi, è tuttora molto piacevole alla vista. Sostanzialmente il punto è distruggere tutte queste navicelle per avere il punteggio migliore e alla fine del livello apportare delle piccole modifiche alle armi della propria navicella. Le armi sono molto belle, sono molto belle e sono parecchio varie. Sostanzialmente si dividono in armi frontali, posteriori e due ai lati, più gli scudi che potrete comprare a seconda man mano che andrete avanti con i punti. Vi è anche una trama nel gioco che può essere parzialmente svelata raccogliendo dei cubi che alcuni nemici lasciano. La storia è interessante, è tutt'altro che scontata ed è un pochino incasinata, quindi se non siete molto bravi in inglese oppure non vi interessa tanto la storia, potete semplicemente giocarla e distruggere tutto e sarà bellissimo lo stesso. In breve, quali sono le cose che davvero rendono questo gioco incredibile e da giocare? Prima cosa, la quantità enorme di livelli segreti che ci sono. Mi pare, non vorrei errare, ci siano almeno 16 livelli segreti. Come si sblocca il livello segreto? Si sblocca distruggendo un particolare punto dello scenario di ciascun livello. Questo punto, logicamente, essendo i livelli piuttosto vasti, non è sempre facile da trovare. Io a distanza di anni ne ho trovati parecchi, perché sto rigiocando questo gioco di recente e sono rimasto a bocca aperta davvero. Che altro dire, è divertente, è piuttosto lungo, se giocate a una certa difficoltà è anche impegnativo, ed è da giocare, sì, assolutamente. Le musiche sono spettacolari, la grafica lo è altrettanto, l'ho già detto. Un'altra piccola nota, forse andrebbe che ci sono un paio di missioni che non sono né bonus né da trama, con dei piccoli mini giochi dove bisogna raccogliere degli oggetti e superare delle stage per fare un certo numero di punti. Oltre a questa, ha una modalità arcade vecchio stile, mi ricorda un pochino i giochi da sala giochi, insomma, quelli lì dove conta solo il punteggio e il tempo. Che dire? Okay. No, fatemi sapere se vi è piaciuto. Ma io, riguardando le screenshot, lo conosco molto bene questo gioco, solo che non ricordavo si chiamasse così. Cazzo, ci ho passato tempo io su questo gioco, me lo ricordo bene. È un gioco degno, è un gioco degno. È un gioco degnissimo. Sì. Per PC, chiaro, chiaramente sì. Sì, lo potete giocare sostanzialmente adesso con DOSBox per emularlo. Sì. Quindi sia su Windows che in altri ambienti che supportino DOSBox, inutile dirlo, Linux e derivati e roba varia. Ok, vado io o vai tu, Rampage? È indifferente, puoi andare anche tu. Allora vado io. Il gioco che porto io è Loom. Dunque, abbiamo parlato prima di Monkey Island, adesso parliamo di Loom. Che cosa c'è in comune tra Loom e Monkey Island? Cioè la casa produttrice, cioè la LucasArts. Come molti retrogiocatori sapranno, la LucasArts è probabilmente la casa videoludica di maggiore importanza per quanto riguarda le avventure grafiche. Forse Garriten avrà qualcosa da ridire al riguardo, però secondo me è la più importante, almeno nei primi anni 90, per quanto riguarda le avventure grafiche. Una delle tante avventure grafiche della LucasArts, purtroppo purtroppo poco conosciuta, è Loom. Una piccola parentesi: nel primo Monkey Island, quando si entra nello Scum Bar, che è uno dei primissimi primissime location in cui appunto bisogna entrare, Insomma, in questo Scum Bar ci sono vari pirati. Uno di questi pirati ha una spilletta su cui c'è scritto Ask me about Loom, cioè parlami di, cioè chiedimi di Loom. E chiaramente il Guybrush Threepwood nel primo Monkey Island può chiedere a questo pirata di parlargli di Loom, e Loom, questo pirata inizierà a parlare di Loom, della storia. Allora, Loom secondo me è un punto e clicca molto strano ed originale, per questo mi piace. E di solito i punti e clicca, soprattutto quelli dei LucasArts, erano comunque punti e clicca con tante funzioni, tante azioni: prendi, lascia, apri, chiudi, tira, ce ne sono tantissime. Loom ha soltanto una funzione, il bastone. Con questo bastone, per fare le varie azioni che ho appena elencato, per esempio apri, chiudi, illumina e tutte le altre, bisogna suonare correttamente una serie di note sul bastone. E secondo me è geniale, cioè avere, si hanno questo bastone e le relative note, che sono Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, suonandole in un particolare ordine si attivano particolari comandi. Secondo me l'idea era molto molto bella, è stata sfruttata anche abbastanza bene in Loom, potevano farlo anche meglio, però è ottima secondo me come idea. È un'avventura grafica diversa dagli altri punti e clicca. Io dico, se siete degli appassionati di avventure grafiche, non fatevelo sfuggire, perché è facile da reperire, è molto piccolo, chiaramente si gioca su Scum, e soprattutto come avventura grafica è diversa, è qualcosa di diverso, è qualcosa anche di più poetico. Dico solo questo su Loom e chiudo. Loom è una delle poche avventure grafiche LucasArts che non punta molto sul sarcasmo, non è molto sarcastica come opera. In realtà, andando a ricordare Sam & Max, Grim Fandango, Monkey Island, il sarcasmo è sempre lì. In Loom invece siamo più seri, cioè ci invita a pensare un po' di più, quindi non lo so, provatela, è un'esperienza diversa. Ok, Rampage? Bene, allora, il gioco che io vi propongo è un cult che io sono sicuro che tutti ci siamo passati, almeno per 30 ore della nostra vita durante la nostra giovinezza. E sto parlando di Lemmings. Ovviamente mi seguite. Vabbè. Ovviamente mi seguite. Vabbè. Allora, io penso che questo gioco noi l'abbiamo scordato nella puntata in cui si parlava dei giochi addictive. E penso siete d'accordo con me, perché porca miseria, questo gioco è uno dei giochi che mi ha rubato più ore di tutta la mia vita, penso, tra tutti i giochi che io abbia mai giocato. È un gioco che non necessita di spiegazioni, che molto brevemente consiste nel salvare le orde di questi bipedi dei capelli verdi e dal colore della pelle bluastro, che si muovono caoticamente dentro la mappa e che vanno sempre incontro a sciagure, a bruciature, a cadute dentro a precipizi, cose improponibili dei quali noi li dobbiamo amorevolmente salvare in più possibili per andare avanti nei livelli. E si arriva e si va avanti. Io non penso di averlo mai finito questo gioco, ma mi ricordo che si va avanti e si arriva a dei punti in cui è sostanzialmente impossibile salvarli. Cioè, si raggiungono delle difficoltà allucinanti in questo gioco. Allora, diciamo che... No, non siete d'accordo? Sì, sì, no, ma tutti, comunque, in generale, tutti i giochi, i retro giochi erano difficili, diciamo. Ah, certo, questo sì. Poi c'erano dei giochi che, impegnandoti, magari riuscivi a farli. Altri in cui anche impegnandoti non potevi farci. Che diventavano volutamente disumani. No, è così, li facevano apposta così, probabilmente perché, anzi sicuramente perché erano programmati male. Però è impossibile, ci sono delle volte in cui bisogna dire basta. L'hanno fatto in questa maniera, non posso fare niente. Sempre se non si usano le cheat, chiaramente. Però Lemmings è un grande giorno, è veramente un grande giorno. Ma stasera fanno le corse clandestine da noi, che cosa sta succedendo? Vabbè, una moto ogni 30 secondi. Infatti sì. Le corse clandestine fanno, non ho altro che spiegazione. che cavolo. E vabbè, dunque, Retro Space finito, abbiamo le recensioni, per le quali non abbiamo chiaramente una sigla, oppure volete fare una sigla al volo, così? Rampage, dacci, dacci una sigla. La nostra recensione preferita. Ah, sì, sì, sì, perfetto, perfetto, questa è la sigla. Un attimo. But you know, I saw this movie this year called last year called Basic Instinct. Okay, now Bill's quick capsule review. Piece of shit. Okay. Questa è la nostra sigla. Dunque, spieghiamo velocissimamente la sigla. Era Bill Hicks, un comico americano purtroppo scomparso. Grandissimo. Vi consigliamo semplicemente di andare a vedere qualche suo video su YouTube. Dunque. Gary Dan, se non sbaglio, non recensisce niente. Parliamo sì, sì, solo, sì. Solo io e Rampage. Rampage, ci vuoi spiegare tu velocissimamente comunque che cosa è questa cosa che vuoi recensire? Perché non l'ho capito. È un libro, Murta. È una cosa che tu forse non vedi da tanto tempo, ma è un libro. Fondamentalmente. Io bazzico più per fumetti, manga, quindi libri. Beh. Cioè, certo, sì. Certo. Capisco. Comunque, il titolo, anzi, dovrebbe incuriosirti perché è molto orientale. Si chiama Balzac e la piccola sarta cinese. Non sono capace di pronunciare il nome dell'autore. Dai, sì. Esatto. È un libro che, insomma, io passavo in biblioteca un paio di giorni fa, non in biblioteca, in libreria, perdonatemi. L'ho guardato così, mi ha catturato, sono tornato a casa e l'ho letto il giorno stesso. E ne sono circa 200 pagine e la storia è praticamente la storia di due ragazzi che si trovano in rieducazione nei paesi della Cina maoista, praticamente, perché erano figli di borghesi e quindi dovevano essere rieducati da proletari. E durante il periodo di rieducazione, ovviamente nella Cina maoista i libri si bruciano, le cose tutte occidentali non sono accettate. E la loro vita praticamente cambia quando riescono a trovare tramite un contatto dei libri di Balzac. E niente, praticamente è la storia di come praticamente un libro, questo è un tema molto, molto ricorrente, comunque molto ben sviluppato in questo romanzo in particolare, la storia di come un libro può cambiare sostanzialmente la vita di una o più persone, come in questo libro. È della piccola sarta cinese, che è una sarta che appunto è sempre cresciuta invece in uno di questi villaggi dove i ragazzi sono in rieducazione, che quindi viene rieducata attraverso la cultura occidentale da questi due ragazzi. È una storia molto, molto romantica, anche tragica verso la fine, ma di cui non voglio parlare perché vi lascio soltanto il piacere della lettura, ecco. Compratelo, Balzac e la piccola sarta cinese. Solo il titolo secondo me merita. Ora che lo rileggo, in effetti il titolo merita. Allora, ultima recensione del podcast e poi ci salutiamo con i contatti e l'ultima canzone. Io volevo parlare di una cosa molto importante per me e anche per Garriden da un po' di tempo a questa parte, cioè Stambolapon. Allora, Stambolapon, molto semplicemente, è una donna, un'estensione per Mozilla Firefox. È ultimamente anche per Internet Explorer, però insomma nasce su Mozilla Firefox. Allora, StumbleUpon, in poche parole, è un'estensione che vi permette di selezionare le vostre preferenze, anche quelle più specifiche, e una volta selezionate le vostre preferenze, cioè quello che vi piace in un certo senso, basta premere il tasto Stumble sul vostro browser e vi calcola, vi spedisce in alcune pagine in modo random rispetto alle preferenze che avete messo. Se mettete per esempio, che ne so, rock, football e piccole sarte cinesi, per dire, il programma StumbleUpon vi manderà a caso su pagine chiaramente presenti sul web che hanno a che fare con i vostri interessi. Mi piace perché è molto semplice, non è uno di quei programmi seccanti, ingombranti, ti fa passare il tempo e soprattutto è grazie o a causa StumbleUpon che io non dormo la notte. semplicemente questo. Quindi, se avete Mozilla, o vabbè, Internet Explorer, in tal caso, vabbè, mi dispiace, provate l'addon di Istanbul Upon e diteci un po' che cosa ne pensate. Per me è uno degli addon di Mozilla più belli, sicuramente uno dei migliori. E anche questo è considerato come un social network. Io stento a riconoscerlo come un social network, in realtà. Non mi sembra molto social network. Però, siccome è fatta dagli utenti, mi piace sempre di più, cioè l'apprezzo sempre di più. Garriden, vuoi aggiungere qualcosa su Istanbul Upon o salutiamo? No, confermo solamente che è davvero incredibile, confermo che non è tanto social perché ho aggiunto una quarantina di persone a caso e di queste uno si è degnato di leggere il mio profilo e andarsene. Quindi non è molto social, però è davvero geniale. Sì. È molto per cazzeggiare Istanbul Upon. Comunque provatelo perché ne vale la pena. Bene, uomini, come potete capire dall'assenza di sigla di sottofondo, stiamo per finire, diamo i contatti e poi chiudiamo con l'ultima canzone. Il blog è nerdpodcast.blogspot.com, dove troverete questa puntata. L'email è nerdocast@gmail.com, i vari Twitter sono Nerdfats, cioè il mio, quello di Rampage Wish Freedom, quello di Garriden è Devisir92, quello dell'altro che non mi ricordo, non c'è. Quello dell'altro che mi ricordo come si chiama, quello insomma sì, è Malloman, sì. No, comunque salutiamolo. Ciao, e anche il gruppo di Facebook di Malloman. No, del podcast. Del podcast. Sì, mi sono scordato di dirlo in apertura. C'è il gruppo di Facebook del podcast, dove la maggior parte degli iscritti sono brasiliani, ma ci va benissimo, grazie. Poi, chiaramente siamo su iTunes e ci trovate digitando o Nerd Podcast o Nerdcast. E non lo so, abbiamo detto tutto? Li abbiamo ricordati tutti? Credo di sì. Sì, bene. Allora, cari ascoltatori, speriamo di non aspettare altri 3 mesi o a sto punto del 2012 per fare un'altra puntata. Speriamo sia stato di vostro gradimento. Grazie se siete arrivati fino a questo punto. L'ultima canzone, è dei Ten Goats, si chiama Too Much Informations. Noi vi salutiamo, un saluto da parte di Murtag, di... Un bacio sulla bocca. Sì? Da parte di Rampage. Garriden non saluta perché... Per me va bene un abbraccio, dai. Sì, ok. Un abbraccio da parte di tutti quanti, anche da parte di Malloman, dai. Anche da parte di Malloman, e noi ci vediamo. Ciao, ciao! Bye! So appealing, got 900 channels I'm surfing through on my satellite TV. There are sites in cyberspace, tell you how to build a rocket. Gotta say the cyclopedias that fit inside my pocket. I spend half the day just clearing spam from my email inbox tray. Somebody help me, cause there's too much information around me. Feels like I'm gonna drown. My mind is frayed by all this overstimulation. I say, we've got to simplify down. Got an online CD store, carries 20 million titles. I just ordered me some grunge and some classical recitals. It would take 2 years just to hear the discs that I've got up in my room. Besides the journalist, now we've got the blogger minions. I've been staying up all night, scrolling through all their opinions. But there's just so much the human mind is able to consume. Somebody help me, cause there's too much information around me. feels like I'm gonna drown. My mind is frayed by all this overstimulation. I say we've got to simplify down. There's too much information around me. Feels like I'm gonna drown. My mind is frayed by all this overstimulation around me. We've got to simplify down. Whatever happened to the ancient arts of conversation? Now let's talk of body functions and bedroom revelations. Everyone's hanging their dirty laundry out for the whole wide world to see. And the scientists explain all the chemical reactions that make us love and hate, give us fear and satisfaction. Now we've got cold equations instead of wondrous mystery. Somebody help me, cause there's too much information around me. Feels like I'm gonna drown.